Introduzione. L'epoca contemporanea è caratterizzata dall'apertura di opportunità senza precedenti per quanto attiene alle possibilità di sviluppo spirituale che si aprono all'Occidente. La estensione e la generalizzazione del laicismo secolare, se da un lato hanno aperto la porta alla diffusione del materialismo, tanto in sede teoretica quanto nel dominio pratico, dall'altro hanno consentito di porre termine al predominio despotico ed incontrastato della Chiesa cattolica e dal presente offrono la possibilità di predicare la religione islamica in Europa e nel Nuovo Mondo. Se in passato gli occidentali non hanno potuto attingere riguardo all'Islam se non a fonti false e manipolate, oggi sono accessibili testi in lingua europea di autori musulmani che presentano la dottrina. In ciò deve cogliersi il segno di un disegno provvidenziale della storia teso all'estinzione di tutti i residui religiosi preislamici e all'affermazione della religione del vero. L'Islam come unica fede, estesa dagli orienti della terra ai suoi occidenti. La libertà di espressione per la minoranza islamica in Europa non coincide però, almeno sino al presente, né con la parificazione dei suoi diritti a quelli delle altre confessioni, con la cessazione della disinformazione, dei pregiudizi o delle discriminazioni. Va anzi detto che la parte cattolica opera presentemente al fine di distogliere e falsare i principi dell'Islam in modo minuzioso e sottile e presenta, sotto l'aspetto del dialogo interreligioso, un tentativo di assimilazione che, sebbene incruento, permane non di meno aggressivo e riguardoso. Per questa ragione riteniamo che la pubblicazione del presente testo rappresenti un prezioso contributo all'opera di diffusione del messaggio islamico ed al contempo un proficuo strumento che consente di restituire il rango di Gesù figlio di Maria, la pace sia con lui, e di sua madre alla Dio. Grazie al suo contenuto, il lettore coscienzioso sarà in grado di operare una netta distinzione fra il servo di Dio Gesù, grado A, uomo vissuto fra gli uomini, ed il Cristo divinificato ed idolatrato dalle differenti sette cristiane. La rigorosa distinzione fra kerigma cristico delle origini e visionarismo paolino, ormai impostasi anche agli studiosi cristiani più obiettivi, consente di cogliere le modalità secondo cui la diffusione dell'Islam e la missione del profeta Muhammad, su di lui la benedizione e la pace, hanno rappresentato da un lato la riaffermazione della condizione. In tal modo risulta evidente come la prima delle eresie diffusesi in seno alla comunità cristiana originaria, quella predicata da Paolo di Tarso, contenga già in nuce le sue forme estreme più aberranti e comporti la insanabile contaminazione del monoteismo predicato da Gesù, grado A, e da tutti i profeti che lo hanno preceduto. E ente in tal senso che è corretto affermare che la rivelazione del Corano ha reso piena giustizia a Gesù figlio di Maria, grado A, attestando il suo rango di creatura di Dio e profeta inviato ai figli di Israele con la Torah e il Vangelo e confutando le numerose menzogne coniate a suo riguardo, prima fra tutte quelle secondo cui egli avrebbe subito la morte infamante della croce. Paolo di Tarso scrive: «Se Cristo non è resuscitato dai morti, vana è dunque la nostra fede». Da parte nostra, possiamo affermare che la pubblicazione del seguente testo rappresenta la prova ragionata e documentata della vanità della fede cristiana e del suo carattere di macchinosa sintesi fra elementi giudaici e concezioni derivanti dalla speculazione greca. Se è nella volontà di Dio, ci auguriamo che di esso facciano tesoro i predicatori musulmani, i neoconvertiti, coloro che si accingono alla conversione, i ricercatori sinceri e quanti intendono contribuire alla causa di Dio chiamando i loro simili al culto esclusivo dell'unico Dio e dal rigetto dell'idolatria in tutte le sue forme. Quanto ai criteri di redazione, abbiamo estratto dal commentario coranico al Mizan fi Tafsiri El Kur a 100 grave n di grado alla Matabataba i brani contenenti l'esigesi dei versi concernenti Gesù e sua madre, grado A, e li abbiamo pubblicati assieme alla lunga tenendo conto del fatto che il testo originale del commentario risale alla seconda metà degli anni 50, abbiamo ritenuto opportuno aggiornarlo sulla base dei risultati delle ricerche più avanzate, in specie per quanto concerne il capitolo sintesi storica delle dottrine giudaiche e cristiane. È stato infatti nostro intento mantenerci fedeli allo spirito dell'opera, piuttosto che alla sua lettera, avendo altresì in vista la diversità di condizione fra i destinatari dell'originale ed il pubblico cui si indirizza la nostra traduzione. Per la stessa ragione abbiamo accennato in nota allo stato presente dell'apologetica cattolica e dai risultati dell'opera di confutazione delle falsificazioni interessate da parte degli studiosi musulmani. Le note dell'autore sono contraddistinte dall'iniziale T, quelle del curatore dell'edizione inglese. Sayyid Said Akhtar Rizvi recano il segno R mentre le nostre sono indicate con H. Nell'offrire ad Allah, Signore dei Mondi, il frutto del mondo lavoro, lo preghiamo di benedire quanti si impegnano con le loro persone e con i loro beni, singolarmente e congiuntamente, nell'opera di diffusione della religione islamica, implorando per loro il soccorso di Dino e la prosperità in questo mondo e nell'aldilà. Che Allah benedica il migliore degli esseri creati, il suo servitore, suo inviato Muhammad, la sua eletta progenie, i suoi nobili compagni, i suoi seguaci e coloro che procedono lungo il suo sentiero sino al giorno del giudizio. Il successo dipende esclusivamente da Allah. Grado Abdu Ladi Palazzi. 15 Safar 1411. 5 settembre 1990. La storia di Gesù e Maria nel Corano. Maria, figlia di Grado Imran, fu la madre del Messia. Quando sua madre era incinta di lei, fece voto che avrebbe dedicato il figlio nel suo grembo al servizio del Tempio. Credeva infatti di essere incinta di un maschio, ma quando partorì e si accorse di aver generato una femmina, fu in preda al dispiacere e dallo sconforto. Chiamò allora la bambina Maria, cioè serva. Il padre di lei, Grado Imran, era morto prima del parto. In tal modo la madre portò Maria al tempio affidandola alle cure dei sacerdoti, uno dei quali era Zaccaria. Essi iniziarono a disputare fra loro circa colui che dovesse prendere in custodia l'infante. Decisero allora di trarre a sorte. E la scelta cadde su Zaccaria, che divenne suo tutore. Quando ella ebbe raggiunto l'età della pubertà, Zaccaria costruì per lei una cortina al fine di preservarla dagli sguardi degli uomini. Ella soleva adorare Allah contro l'eventualità di commettere trasgressioni. Purificata ed eletta, era visitata dagli angeli, che rimuovevano da lei ogni sorta di contaminazione. Era obbediente al suo Signore, costituendo un segno di Allah per tutti i mondi. C.F.R. Corano 3, 35-44, 19-16, 21-91, 66-12. Ella era celata dietro la cortina quando Allah le inviò il suo spirito che apparve in forma di un uomo dall'aspetto gradevole e le disse di essere il messaggero del suo Signore incaricato, col permesso di Allah di concederle un figlio puro senza il concorso dell'uomo. Egli le annunciò inoltre i miracoli che si sarebbero verificati a causa di suo figlio. E la informò del fatto che Allah lo avrebbe fortificato con lo Spirito Santo e gli avrebbe insegnato. Le disse inoltre che sarebbe stato un inviato per i figli di Israele e che avrebbe manifestato prove evidenti della sua missione. Dopo averle descritto la natura ed il rango del figlio che avrebbe generato, egli lasciò in lei lo Spirito ed ella restò incinta di Gesù, grado A. E seguì il corso della gravidanza in modo analogo a tutte le altre donne. Si ritirò allora in una contrada remota, sino a quando le doglie del parto la costrinsero a rifugiarsi sotto il tronco di una palma. Prese allora a dire: «Oh, fossi morta prima di ciò, e potessi essere una cosa dimenticata!» Allora il figlio le parlò dal basso ventre dicendole: «Non ti rattristare, già che il tuo Signore ha fatto scorrere un fiume sotto i tuoi piedi. Scuoti il tronco della palma e ne cadranno datteri freschi. Mangia, bevi e rinfresca i tuoi occhi. Se vedrai un uomo, digli: ho fatto un voto al misericordioso e quest'oggi non parlerò ad alcun uomo». Dopo il parto, ella tornò alla sua gente e portò con sé il neonato. D.C.F.R. 19-20-27. Quando i suoi la videro in tal modo, andarono in collera, la biasimarono e la insultarono, come avveniva in tutti i casi in cui una donna non coniugata avesse dato alla luce un figlio. Le dissero infatti: «Zero Maria, hai davvero fatto una cosa indegna. Zero sorella di Aaron, tuo padre non era un uomo malvagio, tua madre era una prostituta». Ma ella indicò il bambino ed essi chiesero: «Come parleremo ad un infante nella culla?» Irne immediatamente il bambino replicò: «In vero io sono il servitore di Allah. Egli mi ha dato il libro e mi ha costituito profeta, mi ha reso benedetto ovunque io sia e mi ha imposto la preghiera e la purificazione. Mi ha reso obbediente a mia madre e non mi ha fatto superbo o ribelle. La pace sia su di me, nel giorno in cui sono nato, nel giorno in cui morirò e nel giorno in cui resusciterò alla vita. CFR 19:27-33. Questo discorso di Gesù, grado A, rappresenta una sorta di anticipazione della futura missione. Egli sarebbe insorto contro l'oppressione e l'ingiustizia, avrebbe riformato la legge di Mosè, grado A, rivivificato quella parte di conoscenza rivelata, che era stata dimenticata e chiarito agli uomini l'oggetto delle loro divergenze. Gesù crebbe divenendo adulto. Egli e sua madre mangiavano e bevevano in modo del tutto normale e furono dall'inizio alla fine sottoposti a tutte le consuete necessità della vita quotidiana. Quando Gesù, grado A, ricevette la missione di inviato ai figli di Israele, sorse con il richiamo alla religione monoteista dicendo: «Sono giunto a voi con un segno da parte del vostro Signore. In verità creerò per voi dall'argilla la similitudine di un uccello. Quindi aliterò su di esso e diverrò col permesso di Allah un uccello vivente. Guarirò il cieco ed il lebbroso, e riporterò in vita il morto col permesso di Allah. Vi informerò riguardo al vostro cibo e da ciò che custodite nelle vostre case. In vero in ciò vi è un segno per voi, se siete credenti. In verità Allah è il mio Signore ed il vostro Signore. Adoratelo». 3:49-51. Quindi predicò la sua legge, che rappresentava una conferma della legge di Mosè, grado A, ma in parte la abrogava, permettendo alcune cose che in passato erano state proibite a causa della disobbedienza dei giudei. Gesù, grado A, soleva dire: «In vero sono venuto a voi con la sapienza, onde chiarirvi parte di ciò riguardo a cui divergete. Zero figli di Israele, in vero io sono per voi l'inviato di Allah che ui conferma ciò che è stato rivelato prima di me nella Torah e vi reca la buona novella di un inviato che verrà dopo di me, il cui nome è Ahmad, il Paracleto». 51:6. Col permesso di Allah, egli realizzò i miracoli di cui in precedenza, cioè la vivificazione dell'uccello di Creta, la resurrezione del morto e la guarigione del lebbroso. Seguitò a lanciare l'appello al monoteismo e alla sua legge, sino a quando si convinse che non l'avrebbero ascoltato. Vedendo la loro insolenza, la loro inimicizia ed il loro odio, nonché l'arroganza dei sacerdoti e dei rabbini, si separò da loro e scelse i suoi apostoli, cioè il piccolo gruppo di coloro che avevano creduto in lui, come i suoi aiutanti nella causa di Allah. Allora i giudei insorsero contro di lui con l'intenzione di ucciderlo, ma Allah lo nascose alla loro vista e lo elevò a sé. I giudei furono in preda alla confusione. Alcuni pensarono di averlo ucciso, altri di averlo crocifisso, ma ciò non fu altro che apparenza. CFR 4:1/58, 5:110-111, 43:63-65. 61:6-14. Questa è in breve la storia di Gesù e Maria secondo quanto narrato dal Sacro Corano. Posizione di Gesù nei confronti di Allah. Gesù, grado A, fu un servitore di Allah ed un suo profeta, un inviato per i figli di Israele. CFR 3:49. Uno dei cinque inviati apportatori di una nuova legislazione, detti U accento grave, L, U accento grave, L grado A, ZM, nonché l'apportatore di una nuova legge e di un nuovo libro, detto Evangelo, Ingil. Allah lo ha chiamato Messia, Masì, e Gesù, grado A, YSA accento grave. Egli era una parola di Allah ed uno spirito da lui proveniente, CFR. 4:171, una guida. Imam, CFR 33:7, uno dei testimoni degli atti degli uomini, CFR 4:159-5:117, l'annunciatore dell'avvento dell'inviato di Allah, CFR 61:6, degno di ricompensa in questo mondo e nell'aldilà, uno degli approssimati ad Allah, CFR 4:1/4, discendente di una progenie eletta, CFR 3:33, uno dei probi e dei virtuosi, CFR 6, 85-87. Fu reso benedetto ovunque fosse e purificato, un segno per gli uomini della misericordia di Allah, obbediente a sua madre, sottomesso, CFR. 19, 19-33. E fu uno di coloro cui Allah insegnò il libro e la sapienza, CFR. 3 e 48. Queste 22 connotazioni, tutte pertinenti al rango dell'intimità divina, Wilaya, rappresentano gli attributi con cui Allah ha voluto descrivere ed onorare questo profeta, attestando il rango che gli compete. Essi possono essere divisi in suoi gruppi. 1. Attributi acquisiti, come la servitudine, la rettitudine, l'approssimazione ad Allah. 2. Attributi impartitigli da Allah come segno speciale della sua grazia. Nel nostro commentario abbiamo descritto questi attributi secondo il nostro grado di comprensione. Chiunque desideri ulteriori dettagli è invitato a consultare gli altri volumi. Ciò che Gesù ha detto e ciò che gli è stato attribuito. Il Corano afferma che Gesù, grado A, era il servitore di Allah ed il suo inviato, e che egli non ha mai affermato di se stesso ciò che invece i cristiani gli hanno attribuito, ma si è limitato a trasmettere il messaggio rivelato. Dice Allah. E quando Allah dirà, «Zero Gesù, figlio di Maria, hai forse detto agli uomini, prendete me e mia madre per due dei all'infuori di Allah?» Egli dirà, «Gloria a te! Non mi si addice di affermare ciò cui non ho diritto. Se l'avessi detto, per certo, tu lo sapresti. Tu conosci ciò che è in me, ma io non conosco ciò che è in te. Invero tu sei il conoscitore dei segreti. Non ho detto loro se non ciò che tu mi hai imposto. Di adorare Allah, mio Signore e vostro Signore, sino a che ero con loro sono stato loro testimone, mentre ora che mi hai elevato, tu sei colui che li osserva e tu sei il testimone di tutte le cose. Se li castighi, essi sono in vero i tuoi servitori, e se li perdoni, in verità tu sei il potente, il sapiente. Allah dirà, questo è il giorno in cui la loro veridicità gioverà ai veritieri. Manna Quinti, 5, 116-119. Questa mirabile risposta contiene l'essenza della servitudine e mostra una sorprendente modalità di espressione. Trattasi di uno specchio dell'attitudine di Gesù nei confronti del suo Signore e dimostra in che modo egli si ponesse nei confronti di Allah e considerasse gli uomini e le loro opere. Egli dichiara di considerarsi il servitore di Allah e di non desiderare che di obbedirgli. Non compie se non ciò che gli è ordinato e non agisce che in base all'ordine ricevuto. La sua missione si identifica con l'appello al monoteismo. Ed egli si è limitato a dir loro, adorate Allah, mio Signore e vostro Signore. Quanto alla sua condizione nei confronti degli uomini, egli si limita ad attribuirsi la condizione di testimone. Non spetta a lui determinare se Allah vorrà perdonare le sue creature o punirle. Domanda. Se le cose stanno così come si giustifica quanto l'autore ha in precedenza affermato circa l'intercessione, cioè che nel giorno della resurrezione Gesù grado A sarà fra gli intercessori, intercederà e la sua intercessione verrà accettata. Risposta. Il Corano ribadisce in forma esplicita, o almeno quasi esplicita, che egli è un intercessore. Dice alla quastapa culo kimali shinus pita casa terouki, e coloro che essi invocano all'infuori di shinu fei più licca, Pawiraturo du Ali Abimabiuka. Lui non hanno autorità di intercedere, eccetto coloro che rendono testimonianza della verità quando la conoscono. 43-86. E nel giorno della resurrezione egli, Gesù, sarà testimone contro di loro. 4-159. E quando ti insegnai il libro e la sapienza, la Torah e l'Evangelo. 5-110. Quanto poi alla nozione generale di intercessione, si rimanda a ciò che abbiamo scritto in sede opportuna. L'intercessione è qualcosa di assai diverso dalla dottrina dell'espiazione dei peccati, in cui credono i cristiani. La teoria dell'espiazione nullifica la validità del sistema di ricompensa e punizione, e conseguentemente nega l'assoluta sovranità di Allah. Come abbiamo spiegato in precedenza, il discorso di Gesù, grado A contenuto nei versi sopracitati, nega proprio tale dottrina dell'espiazione vicaria, quanto invece all'intercessione essa non è argomento del verso, tanto che esso né la afferma né la nega. Guardando a ciò che gli uomini affermano riguardo a Gesù, grado A, vediamo che dopo di lui essi si sono divisi in numerose sette, che forse ammontano a più di 70 ripartizioni dell'eresia. Questo numero prende in considerazione soltanto le maggiori divergenze, in quanto le minori sono troppo numerose per essere calcolate. Non di meno, il Corano si occupa soltanto di ciò che essi affermano circa Gesù, grado A, e sua madre, poiché si tratta di una alterazione del principio portante del monoteismo, elemento cui il Corano addita come costituente essenziale del retto sentiero della religione. Per questa ragione, in questa sede, il libro di Allah Ta'ala Tadiuna non menziona ulteriori problematiche, quali l'alterazione del testo delle scritture, l'espiazione e simili. La dottrina che il Corano attribuisce loro è la seguente. Dicono i Nazareni, il Messia è figlio di Allah, 9,5. Essi dicono, il misericordioso si è preso un figlio, 21,26. In vero sono miscredenti coloro che dicono, in verità Allah è il Messia figlio di. In vero sono miscredenti coloro che dicono, in verità Allah è il terzo di tre. E non dite, 3, 4, 171, può sembrare sulle prime che questi versi concernano dottrine differenti. Ed è questa la ragione per cui alcuni uno attribuiscono ciascun verso ad una setta, come ad esempio i Melchiti, due che credono nella filiazione letterale, i Nestoriani, tre che descrivono la filiazione servendosi dell'esempio della luce che irradia attraverso un cristallo trasparente, ed i Giacobiti, quattro che la spiegano mediante la trasformazione, asserendo cioè che Dio si è trasformato in carne e sangue. E, tuttavia, è evidente che il Corano non si occupa delle peculiarità di queste differenti sette, ma soltanto delle dottrine che esse hanno in comune pur divergendo nella loro spiegazione, cioè quelle secondo cui Gesù, grado A, è figlio di Dio, a lui consustanziale ed una delle persone della Trinità. Questa spiegazione è corretta ed è dimostrata dal fatto che il Corano si serve della medesima argomentazione per confutare l'insieme delle dottrine eterodosse proprie alle sette. Veniamo dunque ad una spiegazione per esteso. L'attuale testo della Torah e del Vangelo contiene una chiara menzione dell'unità di Allah. D'altra parte il Vangelo menziona la filiazione dichiarando che il figlio procede dal padre. Questa filiazione viene interpretata in senso letterale e non analogico di distinzione, onore o eccellenza, nonostante il fatto che molti siano i versi interpretabili in tal senso. Si guardi ai seguenti. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e benedite quelli che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per coloro che vi disprezzano e vi perseguitano, onde siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sui buoni e sui malvagi e rinvia la pioggia sul giusto e sul peccatore. Se infatti amate coloro che vi amano, che ricompensa ne avrete? Non fanno così anche i pagani? E se onorate soltanto i vostri fratelli, cosa fate più degli altri? Non fanno così anche i pagani? Siate dunque perfetti come perfetto è il Padre vostro, che è nei cieli. Matteo 5, 44-48. Risplenda fra gli uomini la vostra luce, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro, che è nei cieli. Matteo 5, 16. Non fate la carità innanzi agli uomini per farvi vedere, altrimenti non avrete alcuna ricompensa dal Padre vostro che è nei cieli. Matteo 6, 1. Pregate dunque così, Padre nostro che sei nei cieli. Matteo 6, 9. Poiché se perdonate coloro che vi oltraggiano, il Padre vostro vi perdonerà. Matteo 6, 14. Siate dunque misericordiosi, come misericordioso è il Padre vostro. Luca 6,36. Egli ha inoltre detto a Maria Maddalena, vada ai miei fratelli e di loro, ascendo, al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Questi ed altri versi dell'attuale redazione del Vangelo utilizzano la nozione di figliolanza in senso simbolico di distinzione ed onore. Vi sono poi altri brani del Vangelo che fanno riferimento all'unione del figlio col padre. Ad esempio, dette queste parole, Gesù levò gli occhi al cielo e disse: Padre, l'ora è venuta. Glorifica il tuo figliuolo, onde il tuo figliuolo possa glorificarti. Giovanni 17:1. Dopo aver pregato per i suoi discepoli, egli disse: Non prego soltanto per loro, ma anche per coloro che crederanno in me per via della loro parola, affinché possano essere uno come tu, Padre, sei in me ed io in te, possano anche loro essere uno in noi. La gloria che tu mi hai dato io te la rendo, affinché essi possano essere uno. Come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché possano essere perfetti. Nell'unità, affinché il mondo sappia che mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Giovanni 10, 20-23. Vi sono poi ulteriori versi, ai quali non sembra possibile dare un senso, semplicemente di onore e di eccellenza. Tommaso gli disse: Non sappiamo dove vai, come conosceremo la strada? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre. D'ora innanzi lo avete conosciuto e lo avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre. E ciò ci basta. Gesù gli disse: Da lungo tempo sono con voi ed ancora non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come dunque mi chiedi? Mostrami il Padre. Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che vi dico non le dico da me stesso, ma è il Padre che dimora in me ad operare. Credetemi. Io sono nel Padre ed il Padre in me. Giovanni 5:11. Io procedo e vengo dal Padre. Non vengo da me stesso, ma da colui che mi ha mandato. Giovanni 8:42. Io ed il Padre siamo uno. Giovanni 10:5. Andate dunque, insegnate a tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo 28:19. Nel principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio, ed il Verbo era un Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nemmeno una delle cose create è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Giovanni 1:1-4. Queste ed altre consimili affermazioni dei Vangeli hanno indotto i cristiani a credere nella dottrina della Trinità nell'unità. Questa dottrina trinitaria rappresenta il tentativo di conciliare la pretesa secondo cui Cristo è figlio di Dio con la fede nel Dio unico insegnata da Cristo stesso. In Marco 12:29 è narrato che egli ha detto: Il primo dei comandamenti è: Ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è il Dio unico. Sebbene un'affermazione del genere sia priva di un senso intellegibile, coloro che credono nella Trinità dicono: Dio è una sostanza in tre persone. La parola persona definisce l'attributo grazie al quale una cosa si mostra all'esterno. L'attributo non differisce pertanto dalla cosa stessa. Le tre persone sono esistenza, cioè il Padre, conoscenza, cioè il Verbo, e vita, cioè lo Spirito. Queste tre persone sarebbero dunque il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La prima è la persona dell'esistenza, la seconda della conoscenza e la terza della vita. Il Figlio, cioè il Verbo o persona della conoscenza, discende dal Padre, cioè dalla persona dell'esistenza, assieme allo Spirito Santo, cioè alla persona che impartisce vita a tutte le cose. Simili estrusarie conducono a differenze nell'interpretazione e portano alla creazione di 72 sette eretiche o denominazioni principali. Nella misura di quanto necessario vedremo di menzionarie nel contesto dell'opera. Si rifletta sulla definizione data sopra, quindi si rammenti ciò che il Corano attribuisce ai cristiani. Il Messia è figlio di Allah, 9:5. In vero sono miscredenti coloro che dicono: in verità Allah è il Messia figlio di In vero sono miscredenti coloro che dicono, in verità Allah è il terzo di tre. E non dite, tre. Desistete. 471. Dopo tale riflessione, sarà agevole riconoscere come tutti i versi sopracitati tendano a confutare un'unica eresia, la dottrina della Trinità nell'unità che, come abbiamo visto, costituisce il tratto comune di tutte le sette in cui è divisa la cristianità. Per quale ragione il Corano concentra la sua attenzione su questo punto? Per via del fatto che simile argomentazione contro la Trinità coinvolge tutte le dottrine eterodosse concernenti Gesù, grado A, per quanto differenti e numerose esse possano essere. Gli argomenti apportati dal Corano sono pertanto tali da coinvolgere tutte le possibili interpretazioni, come verrà spiegato in seguito. 1. CFR. Asharistani, al-Milalua, Nial. In questa sede non ci sembra opportuno addentrarci nei dettagli, ma è sufficiente ricordare che attorno al principio del IV secolo emersero quattro sette principali. Riguardo al problema della natura di Cristo. A. O Musiani ritenevano che il figlio fosse della stessa sostanza del padre. Vengono altresì denominati Atanasiani. B. O Moiani credevano che il figlio fosse simile al padre. Sono inoltre chiamati che O Moiusiani credevano che il figlio fosse di sostanza simile al padre. Sono chiamati semi-ariani. De Anomoiani credono che il figlio sia dissimile dal padre. Sono chiamati ultra-tatucco. La dottrina della setta atanasiana, che finì per imporsi come ufficiale, afferma che il figlio è della stessa sostanza del padre e che il Cristo incarnato è una singola persona dotata di due nature, divina e umana, ed è quindi vero Dio e vero uomo. Risulta pertanto evidente come le sette citate condividano la nozione pagano-antropomorfica di un Dio generante, pur divergendo circa la sua interpretazione. E questa è la ragione per cui il glorioso Corano, nel ribadire la fede ortodossa secondo cui Dio è né generante né generato, confuta non l'una o l'altra eresia cristiana, ma il loro complesso. 2. Con il termine melchiti si intendono quei cristiani di Siria e dell'Egitto che rigettarono il monofisismo, accolsero le definizioni dottrinali formulate dal Concilio di Calcedonia, 451 d.C., e preservarono la comunione con la sede imperiale di Costantinopoli. Da qui la denominazione di melchiti, avente in arabo il senso di fautore del re. Al presente esistono circa 1 milione di melchiti, per lo più sottoposti al patriarcato di Antiochia. La loro base principale è Damasco. 3. Sono chiamati Nestoriani, i seguaci del vescovo Nestorio, 380-451 d.C. circa, che ricoprì il rango di patriarca di Costantinopoli dal 428 al 431 d.C. Egli riteneva che nel Cristo incarnato sussistessero due persone e che la natura fisica di Gesù fosse separata dalla sua natura divina. In tal modo la Vergine Maria era da lui considerata madre soltanto dell'uomo Gesù, e questa fu la ragione che lo indusse a rigettare l'attribuzione a Maria del titolo blasfemo madre di Dio, Theotokos. Per questa ragione egli fu condannato dal Concilio di Efeso. IR. Va inoltre sottolineato che la città in cui si tenne il concilio era all'epoca diventata il centro propulsore della superstizione mariolatrica. Si può pertanto affermare che il culto cattolico della Madre di Dio è forma cristianizzata dell'arcaico culto pagano dell'Artemide di Efeso. H. 4. Vengono in tal modo denominati i siriaci monofisiti che rigettarono l'insegnamento del Concilio di Calcedonia sulla persona di Cristo. Il monofisismo è la dottrina secondo cui nel Cristo incarnato è presente una sola natura, quella divina, mentre quella umana non è che apparenza. La setta prende il nome della sua guida Jacopo Baradeo. Le costanti persecuzioni ad opera degli imperatori bizantini fecero sì che i giacobiti accogliessero come liberatori i guerrieri dell'Islam che conquistarono la Siria. Sebbene molti dei suoi aderenti si convertirono all'Islam attorno al 640 d.C., circa la chiesa giacobita sopravvisse. fino al XIV secolo d.C., quando le invasioni mongole ne causarono il declino. Argomento coranico contro la dottrina della Trinità. Venendo alla dottrina della Trinità, vediamo che il Corano la confuta in due modi. Primo, trattasi del metodo generale che dimostra come sia impossibile che Allah si prenda un figlio, a prescindere dal fatto che si tratti di Gesù, grado A o di chiunque altro. Secondo, trattasi del metodo particolare che dimostra come Gesù figlio di Maria non sia né Dio né figlio di Dio ma soltanto un suo servitore ed una... Cosa si intende di fatto con simili espressioni? Un essere vivente come l'uomo, l'animale o il vegetale, separa da se stesso una parte della materia che lo compone. Ed essa si sviluppa in modo graduale, sino a divenire un individuo distinto dal genitore, ma appartenente alla sua stessa specie. Il generato viene in tal modo a possedere i medesimi tratti distintivi che caratterizzano il corpo del generante. L'animale emette dal corpo il seme, la pianta lo lascia cadere, in tal modo il germe viene preservato sino a quando si sviluppa in un animale o in una pianta simile a quella che lo ha generato. Questo è il senso di espressioni quali generazione e filiazione. Non è dunque necessario approfondire il tema per concludere che è impossibile riferire ad Allah una cosa del genere. In primo luogo per via del fatto che la generazione presuppone un corpo materiale, mentre Allah trascende tanto la materia quanto gli attributi in assenza dei quali la materia stessa non può esistere, quali moto, tempo, spazio e simili. In secondo luogo ad Allah spettano la divinità e la signoria esclusiva. Egli pertanto esercita un'autorità assoluta su ogni cosa, controlla ogni fenomeno e nelle sue mani è il regno di tutti gli esseri. Per esistere ciascuna cosa ha bisogno di lui e dipende da lui per perpetuarsi della sua sussistenza. È pertanto impossibile immaginare qualcosa che sia quanto concerne il simile ad Allah quanto alla specie possegga attributi o caratteristiche simili ai suoi o sia indipendente da lui. In terzo luogo, se Allah generasse o desse vita ad un figlio, cioè altererebbe la sua immutabilità. In altre parole, egli verrebbe ad essere soggetto alle leggi del moto e del mutamento. Trattasi di una decreta si verifica contraddizione in termini, in quanto ciò che egli istantaneamente e senza alcuna gradualità. Le spiegazioni di cui sopra vengono dedotte dal verso. Dicono, Allah, si è preso un figlio. Gloria a lui appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra, e tutte le cose gli obbediscono. Originatore dei cieli e della terra, quando decreta una cosa le dice soltanto, sì, ed essa è, 2, 116-117. Le tre prove che abbiamo esposto in precedenza sono pertanto contenute rispettivamente nelle parole, gloria a lui appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra, e, originatore dei cieli e della terra, quando decreta una cosa le dice soltanto, sì, ed essa è. E, inoltre è possibile intendere l'espressione originatore dei cieli e della terra, come un'allegoria in cui l'attributo dell'oggetto è stato trasferito al soggetto. In altre parole, ciò significa che i cieli e la terra sono originali per quanto attiene al fine della loro creazione e alla loro conformazione. Allah li ha creati senza alcun modello preesistente. Egli non può pertanto generare alcunché, poiché in tal caso il generato verrebbe ad essere formato sul modello del generante, tanto che i cristiani sostengono che il figlio sia uno col padre. Qualora si accetti questa interpretazione, la frase in questione verrebbe a costituire una ulteriore prova indipendente. I cristiani intendono generalmente l'espressione il Messia è figlio di Dio, in senso allegorico e non letterale. In altri termini, essi espandono il nesso dell'espressione filiazione, quasi che essa significasse la separazione di una cosa dall'altra, senza alcuna divisione fisica e senza alcuna gradualità. Una interpretazione del genere può rimuovere le difficoltà connesse alla corporeità, alla materialità e alla gradualità, ma in ogni caso il problema della somiglianza resta insoluto. Quanto a quest'ultimo aspetto, esso può essere descritto nel modo che segue. Evidentemente credere in Dio Padre ed in Dio Figlio significa pur sempre credere in un Dio plurimo, in una reale pluralità numerica intrinseca alla divinità. Quand'anche si supponga che il Padre ed il Figlio siano uno nella sostanza o quiddità. Un padre ed un figlio della specie umana sono uno quanto all'appartenenza alla specie, in quanto entrambi sono Homo sapiens. Quanto invece all'aspetto individuale, essi sono più di uno in quanto si tratta di due individui distinti. Se pertanto partiamo dal presupposto secondo cui Dio è uno, ne consegue che tutte le cose, incluso vi il figlio, saranno in non Dio, saranno cioè signoreggiate da Dio e da Lui dipendenti. In conseguenza di ciò il supposto figlio non sarebbe un Dio simile a Lui. Se invece d'altra parte supponiamo un figlio simile a Dio, libero e distinto, ciò costituirebbe una chiara e recisa negazione dell'unità di Dio. Questo insegnamento è contenuto nella parola di Allah. Non dite, tre, desistete. Ciò è meglio per voi. Allah è un Dio unico. Non si addice alla sua gloria il prendersi un figlio. A Lui appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra, ed Allah è sufficiente come protettore. 471. Secondo metodo, Gesù figlio di Maria non può essere figlio di Dio e compartecipe della sua divinità, in quanto era un essere umano dotato di tutti i tratti salienti dell'umanità. Il Messia, grado A, fu concepito da Maria e crebbe nel grembo di lei. Ella lo generò in modo consimile a tutte le donne che generano figli e lo allevò nel modo in cui tutte le madri allevano i loro figli. Egli crebbe in modo normale, passando attraverso l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù e l'età matura. Il ritmo di sviluppo della sua esistenza fu analogo a quello di tutti gli altri esseri umani. Del pari la sua esistenza era sottoposta alle condizioni vitali proprie agli esseri umani. Aveva fame e si saziava, provava gioia e dolore, era contento e dispiaciuto, godeva e soffriva, provava conforto e sconforto, mangiava e beveva. Dormiva e si destava, era stanco e si riposava. Tale era la condizione di Gesù, grado A, quando viveva fra gli uomini. Indubbiamente, un essere dotato di simili caratteristiche non è che un mortale, al pari di tutti i membri della specie cui appartiene. In quanto tale, come essere umano, egli altro non era che una creatura di Allah. Prendiamo ora in considerazione gli eventi soprannaturali ed i miracoli operati per suo tramite, come la vivificazione dei morti, la creazione degli uccelli e la guarigione del cieco e del lebbroso. La sua nascita è del pari soprannaturale, in quanto ha avuto luogo senza alcun concorso paterno. Si tratta di eventi straordinari, che trascendono le condizioni ordinarie dell'esistenza umana. Questa loro trascendenza o rarità non significa comunque in alcun modo impossibilità. Stando all'evidenza fornita dai libri rivelati anche Adamo, nacque dalla polvere senza alcun concorso paterno. Quanto ai profeti, come ad esempio Salih, Abramo e Mosè, grado A, essi operarono numerosi prodigi che sono menzionati nelle scritture. Nessuno tuttavia ha mai pensato che miracoli di tal genere fossero prova della loro divinità o negassero la loro umanità. Tale metodo di esposizione è consueta nel verso. In vero sono miscredenti coloro che dicono, in verità Allah è il terzo di tre, cioè una persona della Trinità, poiché non vi è Dio all'infuori del Dio unico. Il Messia figlio di Maria non è che un inviato. Già prima di lui vi furono altri inviati. Mentre sua madre era una veritiera, entrambi si nutrivano di cibo. Vedi come rendiamo loro evidenti i nostri segni, quindi vedi come se ne distolgono. 573-75. Fra le tante attività umane è fatta menzione proprio del nutrimento, in quanto esso dimostra in modo più palese la materialità e la condizione di indigenza e di bisogno, attributi che non possono in alcun modo essere riferiti alla divinità. Ovviamente un essere che patisce la fame e la sete ed è soddisfatto da un boccone di cibo o da un bicchiere d'acqua è emblematico di uno stato di manchevolezza e di carenza, cioè di una condizione che non può essere rimossa senza il concorso di un fattore esterno. Come può un individuo del genere essere Dio? Che senso può avere una simile divinità? Un essere che vive nel bisogno, la soddisfazione del quale è connessa ad un fattore esterno alla sua natura, è carente in se stesso. Ed ha bisogno di qualcuno che lo sostenga dall'esterno. Egli non può pertanto essere un Dio autosufficiente, ma piuttosto una creatura dipendente dal suo Signore, dal Signore nelle cui mani è il regno di tutte le cose. In questo modo è del pari possibile spiegare il senso del verso. Invero, sono miscredenti coloro che dicono, in verità Allah è il Messia figlio di Maria. Di chi potrebbe ostacolare Allah se egli decidesse di distruggere il Messia figlio di Maria, sua madre, e tutto ciò che è sulla terra? Ad Allah, sua matera, appartiene il regno dei cieli, della terra e di ciò che è fra essi. Egli crea ciò che vuole. Ed Allah accetterà sua matera, sua matera, sua matera, sua matera, sua matera, sua matera. Ed Allah, sua matera, sua matera, sua matera, sua matera, è onnipotente. 5.17. Lo stesso dicasi per il verso che segue quello citato in precedenza ed è rivolto ai cristiani. Di. Adorate all'infuori di Allah ciò che non vi reca né danno né giovamento, ed Allah, egli è il veggente, il sapiente. 5.7. La base e la tematica di questo argomento può essere riassunta come segue. Gesù è esaminato nell'ambito del contesto in cui è vissuto e risulta essere in conformità con la legge naturale che presiede all'esistenza di tutti gli esseri. Egli possedeva tutti gli attributi, compì tutti gli atti e fu sottoposto a tutte le condizioni che caratterizzano la vita di un essere umano, come mangiare, bere, soddisfare alle altre esigenze fisiologiche e dar mostra di tutte le funzioni proprie al genere umano. Questo coinvolgimento materiale e questi attributi fisici erano reali, non illusori o immaginari. Gesù grado A era un individuo reale e dotato di caratteristiche reali negli attributi, nelle condizioni di esistenza e negli atti. I Vangeli contengono numerosi brani in cui egli definisce se stesso uomo e figlio dell'uomo e narrano come egli mangiasse, bevesse, dormisse, camminasse, viaggiasse, fosse stanco, parlasse e facesse molte altre cose che non possono essere interpretate altrimenti. La posizione del Messia risulta essere pertanto analoga a quella di tutti gli esseri umani. Egli non aveva alcuna influenza sul governo dei fattori esteriori e poteva essere distrutto al pari delle altre creature. Lo stesso può dirsi delle sue preghiere e delle sue invocazioni. Senza dubbio egli adorava Allah e si sforzava di approssimarsi a lui in spirito di umiltà e sottomissione dinanzi alla maestà trascendente di Allah. Ovviamente nel far ciò non si proponeva soltanto lo scopo di insegnare agli altri come pregare o ragioni consimili. Il verso 4, 172, nel confutare la presunta divinità di Gesù, pone enfasi sul fatto che egli soleva elevare la preghiera, dice Allah. Il Messia non sdegnò di essere un servitore di Allah, né gli angeli o gli approssimati. Sdegnano un tale rango, quanto a colui che disdegna la sua adorazione ed insuperbisce, in uero li ricondurremo tutti a lui. Il fatto che Gesù fosse dedito alla preghiera ed all'adorazione è prova evidente che egli non era Dio e che non condivideva in alcun modo il rango di divinità riservato in esclusiva a quell'uno che è altro da lui. Come potrebbe infatti l'uomo porsi nella condizione di servitore di se stesso? Come potrebbe una cosa essere al contempo autosufficiente ma dipendente da altri all'infuori di lui? La cosa è evidente. Tutte queste ipotesi rientrano nel novero dell'impossibilità logica. Del pari il fatto che gli angeli siano dediti all'adorazione dimostra come essi non siano le figlie di Allah, né in egual maniera lo Spirito Santo e Dio, poiché si tratta in ogni caso di servitori di Allah che lo adorano e gli obbediscono. Dico Allah. Dicono, il misericordioso si è preso un figlio, gloria a lui. No! Non si tratta che di servitori onorati, non lo precedono nel parlare ed agiscono soltanto dietro suo ordine. Egli conosce ciò che è innanzi a loro e dietro di loro, ed essi non intercedono che a favore di coloro di cui egli si compiace e tremano per timore di lui. 21:26-27. Oltre a ciò i Vangeli contengono versi che dimostrano come lo Spirito Santo obbedisca ad Allah e ai suoi inviati, seguendo il loro comando ed agendo in base al loro ordine. Non vi è alcun senso nel dire che una cosa ordina a se stessa, o obbedisce a se stessa, o che accoglie gli ordini delle sue creature ed agisce in base ad essi. Che Gesù non fosse Allah è provato non solo dal fatto che egli adorava Allah, ma anche da fatto che amava gli uomini ad adorare Allah. A ciò si allude nel verso. Invero sono miscredenti coloro che dicono, in verità Allah è il Messia figlio di Maria. Poiché il Messia disse, zero figli di Israele, adorate Allah, mio Signore e vostro Signore. Invero chiunque attribuisce soci ad Allah, Allah gli interdice l'accesso al giardino, e sua dimora sarà il fuoco, e gli empi non troveranno alcun soccorritore. 5:72. Il metodo argomentativo del verso citato è di per sé evidente. Sebbene i Vangeli non contengono una frase esplicita come «Adorate Allah mio Signore e vostro Signore», essi contengono molte delle parole con cui egli esortava gli uomini ad adorare Allah. Egli ha ripetutamente proclamato che Allah è il Signore nelle cui mani è il regno di tutte le cose. Egli ha più volte ribadito che Allah è il Signore di tutti gli esseri e, malgrado gli si attribuisca l'aver detto, io ed il Padre siamo uno. 10:5. Pure non vi è prova del fatto che abbia esortato gli uomini a volgere alla sua persona la loro adorazione. Qualora invece si voglia attribuire un senso accettabile all'espressione evangelica sopra menzionata, essa va intesa nel modo seguente. Obbedire a me significa obbedire ad Allah. Essa verrebbe allora a corrispondere esattamente al verso coranico. Chi obbedisce all'inviato in vero, obbedisce ad Allah. 4:80. Gesù è un intercessore, non un redentore. I cristiani opinano che Gesù abbia espiato i loro peccati con il suo sangue. E per ragione lo chiamano il Redentore ed il Salvatore. La loro ipotesi è esposta nel modo che segue. Adamo disobbedì ad Allah, mangiando del frutto dell'albero proibito, in tal modo. Egli cadde nel peccato. Tale peccato fu ereditato dai suoi discendenti e prende il nome di peccato originale. Conseguenza del peccato è la morte nell'aldilà, la dannazione perpetua. Sorte che l'uomo con suoi mezzi non è in grado di evitare. Allah è al contempo misericordioso e giusto. In conseguenza del peccato l'uomo si trovò in una condizione priva di alternative. Se Allah avesse voluto punire Adamo e la sua discendenza per il loro peccato, ciò sarebbe risultato contrario alla divina misericordiosa, cioè allo stimolo principale della creazione stessa, mentre se li avesse perdonati senza alcuna controparte, ciò sarebbe risultato contrario alla sua giustizia. È infatti conforme all'esigenza di giustizia che il peccatore venga punito della sua colpa e che l'uomo pio ed obbediente si veda ricompensato dei suoi atti virtuosi. 5. Il problema sopraesposto restò insolubile sino a quando Allah decise di inviare il Cristo. Cristo figlio di Dio e Dio egli stesso si incarnò nel grembo di una discendente di Adamo, la Vergine Maria, e nacque assumendo l'umanità. In questo modo egli fu vero uomo in quanto discendente dalla specie umana, ma al contempo vero Dio in quanto figlio di Dio. Il figlio di Dio, essendo egli stesso Dio, era immune da ogni forma di peccato o di errore. Egli visse per un certo tempo fra gli uomini entrando con loro in relazione, mangiò e bevve con loro, parlò con loro, camminò assieme a loro e stabilì con alcuni di essi una particolare relazione di intimità spirituale. In seguito si arrese ai suoi nemici che gli inflissero la peggiore delle pene, cioè la morte in croce. Va infatti rammentato che secondo la scrittura colui che è appeso al legno è maledetto da Dio. egli assunse su di sé la maledizione divina ed accettò la condanna alla crocifissione, patendo il castigo e tutte le pene ad esso connesse. In tal modo redense gli uomini con il suo sacrificio, salvandoli dal castigo dell'aldilà e dalla dannazione perpetua. E, così che spiò il peccato dei credenti, anzi i peccati del mondo intero, questa è in sintesi la fede cristiana. I cristiani hanno fatto di questo complesso artificio il fondamento della loro religione. Trattasi dell'alfa e dell'omega della loro predicazione e della loro missione, così come il Corano fonda la predicazione dell'Islam sul monoteismo. Di qual, questa è la mia via, ora ti invito ad Allah con segni evidenti io e coloro che mi seguono. Gloria ad Allah, non sono fra i politeisti. 12.108. La macchinosità della dottrina cristiana dell'espiazione contrasta con il fatto che, stando a numerosi brani scritturali, alcuni dei quali sono stati citati in precedenza, Cristo soleva innanzitutto esortarli a credere in un unico Dio e ad amarlo. I musulmani, al pari di alcuni non musulmani, hanno mostrato ai cristiani quali siano le carenze ed i difetti propri ad una teoria tanto artificiosa. A riguardo sono stati scritti e pubblicati numerosi volumi, opuscoli ed articoli, nei quali si dimostra come la teoria dell'espiazione mediante il sangue della vittima designata sia non solo contraria alla logica ed al lume dell'intelletto, ma anche contraddittoria rispetto agli insegnamenti monoteisti contenuti nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Da parte nostra, avendo in vista l'obiettivo del nostro commentario, in questa sede intendiamo limitarci a dimostrare come simile teoria sia in contrasto con il fondamento basilare dell'insegnamento del Corano e ad esporre la differenza che separa la dottrina coranica dell'intercessione da quella cristiana dell'espiazione. Oltre a ciò va ribadito come il Corano affermi ripetutamente di indirizzarsi agli uomini spiegando loro le cose in modo adeguato al loro livello di comprensione ed in modo da consentire loro l'accesso alla realtà. Esso rende palese la distinzione fra il vero ed il falso, onde essi possano accettare o respingere. In tal modo, il libro consente all'uomo di discriminare fra bene e male, proficuo e nocivo, affinché egli possa esercitare la sua facoltà di scelta fra l'uno e l'altro. Il fatto che il Corano preservi la conformità con l'intelletto e con le facoltà di comprensione è chiaramente evidente per tutti coloro che studiano il libro sacro. Veniamo ora ad occuparci della confutazione della dottrina cristiana dell'espiazione. In primo luogo, essi affermano che Adamo commise un peccato nel mangiare il frutto dell'albero proibito. Il Corano respinge questa supposizione in due modi. 1. La proibizione di nutrirsi del frutto non rappresentava un ordine di tipo perentorio, come quelli che vengono impartiti dal padrone allo schiavo. Si trattò infatti soltanto di una esortazione avente in vista il bene di colui che ne era oggetto, affinché egli potesse vivere nella migliore delle condizioni. Per via di questo carattere esortativo e non prescrittivo, l'adesione al consiglio o la sua noncuranza non erano tali da comportare di per sé immediatamente ricompensa o punizione. La sua natura non era dissimile da quella parola di conforto impartita da colui presso cui si ricerca consiglio o dalla prescrizione fornita dal medico al suo paziente. In situazioni del genere accade quanto segue. Se la persona interessata accetta il consiglio, ciò risulterà benefico per lui e per la sua esistenza, mentre se lo trascura, ne patirà danno in questo mondo. Allorquando Adamo mangiò il frutto perduto, l'unico danno che ne derivò fu la sua espulsione dal giardino, al punto che perse la condizione di fruizione beatifica che gli fu propria, sino a che dimorò in tale luogo. Non entrò tuttavia in causa alcuna punizione estesa alle sorti dell'aldilà, in quanto egli non aveva disobbedito ad alcun ordine vincolante dal quale potesse derivare una eventuale punizione. 7. 2. Adamo, grado A, era un profeta. Il Corano ribadisce esplicitamente che i profeti sono immuni dal peccato. Essi sono protetti da Allah Suano, cioè Parapule Fale, contro la possibilità di commettere peccati o di trasgredire i suoi ordini. Tale assunto è confermato oltre che dalle numerose prove coraniche, anche dall'inferenza logica, 8. In secondo luogo, essi affermano che Adamo restò in tale condizione di peccato. Ma il Corano confuta simile supposizione affermando: allora il suo Signore lo elesse, si volse a lui e lo guidò. 20:122. Ed Adamo ricevette parole dal suo Signore ed egli si volse a lui. In verità, egli è l'indulgente, il misericordioso. 2:37. Da parte sua l'intelletto conferma quanto sopra, anzi lo dimostra. La retribuzione dell'errore è uno dei mezzi che l'intelletto, al pari di colui che esercita funzione di guida, ritiene necessaria per colui che disobbedisce agli ordini o dà prova di ostinazione. Le leggi e le norme vengono osservate per via del timore connesso alla pena della loro eventuale violazione. Se non vi fossero retribuzione o punizione, non avrebbe luogo alcun esercizio della signoria, né gli ordini o le proibizioni verrebbero in alcun modo rispettati. Il Signore ha tanto il diritto ed il potere di punire i peccatori delle loro colpe, quanto quello di retribuirli e di ricompensarli della loro obbedienza. Del pari egli ha la possibilità di esercitare discrezione in ciò che ritiene opportuno e in ciò che rientra nel dominio della sua signoria. Egli ha pertanto facoltà di mostrarsi indulgente e di perdonare le disobbedienze e gli errori dei malfattori, cancellando le loro colpe e le loro trasgressioni. La facoltà di indulto è parte integrante dell'esercizio del potere, al pari della rigorosa applicazione delle pene nei confronti dei colpevoli. L'intelletto non dubita in alcun modo del fatto che, nei casi in cui il governante abbia piena facoltà di mettere in esecuzione le pene impartite, in taluni casi sia opportuno e proficuo ricorrere all'indulgenza e al perdono. Ciò è dimostrato dal fatto che, tanto nella dinamica giudiziaria quanto nella vita quotidiana, il sapiente ricorso al perdono è costantemente praticato. In questo contesto non vi è pertanto alcuna plausibile ragione per cui l'errore commesso da un individuo debba restargli inscindibilmente connesso. In tal caso, infatti, il perdono e l'indulgenza risulterebbero del tutto prive. Si perdona e si mostra indulgenza al fine di sradicare un errore e di nullificare gli effetti della colpa. Se invece la colpa o l'errore divenissero caratteri indelebili di chi se ne rende responsabile, il perdono e l'indulgenza risulterebbero del tutto privi. Oltre a ciò, la divina rivelazione abbonda di descrizioni dell'indulgenza e del perdono. L'Antico ed il Nuovo Testamento ne trattano per esteso. Va anzi detto che il perdono possiede una tale importanza nell'economia della salvezza che anche il dogma cristiano è costretto a fare ricorso ad esso, sebbene in modo tanto intricato e contorto. In altri termini, essi affermano che un dato peccato è divenuto consustanziale all'uomo, al punto da trasmettersi persino ai suoi discendenti che non lo hanno commesso e da non essere in quanto tale cancellabile per mezzo del pentimento o della contrizione. Tale nozione di un peccato che non viene perdonato nemmeno nel caso in cui la creatura si volga sinceramente pentita al suo Signore risulta non conforme alla logica, al punto che nessuna persona dotata di retto pensiero sarebbe disposta ad accettarlo. In terzo luogo, esse affermano che il peccato di Adamo non solo ha coinvolto lui stesso, ma viene trasmesso ai suoi discendenti sino al giorno della resurrezione. Ciò significa che la punizione di un peccato viene estesa a tutti coloro che in esso non hanno avuto parte alcuna. Trattasi, in altre parole, del caso analogo a quello in cui, se lo schiavo commette una colpa, il padrone amplia la portata della punizione, al punto da includervi tutti i suoi sottoposti, anche quelli che non hanno commesso alcun errore. Non stiamo infatti trattando del caso in cui un individuo commetta un errore ed i suoi discendenti siano solidali con lui persistendo in esso, poiché in tal caso l'estensione della punizione risulterebbe giustificata. In tale maniera i cristiani impongono il fardello del peccato originale su tutti coloro che non hanno in alcun modo contribuito a commetterlo. Il Corano rigetta tale pretesa con le parole: il fardello dell'uno non verrà caricato su un altro. L'uomo non otterrà se non ciò in vista del quale si è impegnato. 58, 38, 39. Ciò è inoltre confermato dal fatto che punire un essere per ciò che non ha commesso equivale a commettere un'azione malvagia. 9. In quarto luogo, l'argomento in questione si basa sull'assunto secondo il quale ogni peccato e ogni errore, senza eccezione alcuna, gettano l'uomo nella perdizione perpetua. In altri termini, viene meno la distinzione della gravità dei peccati, ed essi tutti vengono ritenuti di fatto mortali e mortiferi. Il Corano insegna invece che vi sono categorie e gradazioni di peccati e di errori, alcuni maggiori ed altri minori. Alcuni possono essere perdonati immediatamente, mentre altri, come l'idolatria, possono essere cancellati soltanto in seguito al pentimento. Dice Allah: se eviterete le colpe più gravi che vi sono proibite, vi perdoneremo le vostre mancanze e vi faremo entrare da un'entrata onorata. 4:31. In vero Allah non perdona che gli venga associata cosa alcuna e perdona all'infuori di ciò a chiunque vuole. 4:48. In questo modo Allah ci informa del fatto che, fra le cose proibite, cioè fra le trasgressioni e gli errori, alcune sono più gravi, mentre altre sono di portata minore. Alcuni sono perdonabili ed altri imperdonabili. In ogni caso vi è una gradazione nell'intensità delle colpe, e non tutti i peccati sono tali da rendere colui che li commette soggetto alla punizione perpetua del fuoco inestinguibile. Del pari l'intelletto rifiuta di considerare tutti i peccati alla stessa stregua. Uno schiaffo è differente da un omicidio. Uno sguardo lussurioso non può equivalere alla fornicazione e simili. Nel corso della storia del genere umano, non è mai accaduto che le colpe venissero trattate tutte alla stessa stregua. Gli individui dotati di intelletto hanno sempre attribuito pene commisurate alla gravità dell'atto commesso. Come è dunque possibile valutare tutti i peccati alla stessa stregua, mentre essi differiscono in modo tanto evidente? In ragione di tale palese disparità, soltanto alcuni peccati sono talmente gravi da implicare la dannazione perpetua ed il castigo interminabile, come nel caso, additato dal Corano, di coloro che attribuiscono ad Allah dei condomini nel regno. Ovviamente la colpa di chi si appropria del frutto dell'albero proibito non può certo essere ritenuta analoga a quella di colui che pone accanto ad Allah altri dei o simili. Non vi è alcuna ragione per cui una colpa del primo genere debba essere causa di una condanna illimitata. In quinto luogo vediamo quanto essi hanno affermato circa il supposto conflitto fra gli attributi divini di misericordia e giustizia, e come la cervelloticità della dottrina dell'espiazione derivi proprio dal tentativo di sormontare tale apparente contraddizione. L'incarnazione di Cristo e la sua ascensione sono state congeniate, ad punto da poter divenire ramificazioni di questo disegno d'insieme della redenzione. Tale farraginosa dottrina e le conseguenze che ne derivano debbono indurci a riflettere sul genere di Dio in cui essi credono. Vi troverete allora di fronte ad un Dio creatore che è principio e fine dell'intero universo creato e di tutte le creature che vi dimorano, i cui atti emanano da una volontà e da una conoscenza che risiedono in Lui. La sua volontà i tratti però promanare da una scelta di tipo accademico, in modo analogo a come un uomo decide di agire dopo aver valutato i pro ed i contro del suo atto in base alle conoscenze di cui dispone. Del pari essi opinano che questo Dio mediti sugli aspetti positivi e negativi di un problema e che in seguito a ciò decida o meno di agire. Il loro antropomorfismo è marcato al punto che essi ritengono che Dio dapprima commetta un errore e quindi si penta di averlo commesso. 10. In altri casi sembra invece che il Dio rifletta su un problema senza riuscire a trovare la soluzione corretta. In tal altri egli sembra invece essere inconsapevole di ciò che accade. In altre parole, essi concepiscono gli atti e gli attributi divini in modo che non differisce da quelli propri all'uomo. Qualunque cosa egli faccia, la compie dopo averci pensato e riflettuto e guarda all'utile derivante dall'atto stesso. In tal modo la decisione divina sembra dipendere da fattori esterni, vale a dire dalle conseguenze dell'atto stesso. Talvolta egli decreta per il meglio, talaltra erra nella sua decisione. Ciò equivale ad affermare che gli atti divini possono essere caratterizzati da errore, incomprensione o dimenticanza. Talvolta egli sa, talaltra ignora, talvolta prevale, mentre talaltra è sopraffatto. La sua potenza e la sua conoscenza risultano in tal modo limitate. Qualora la fede abbia contenuti di questo genere, diviene coerente concepire il Dio come soggetto alle condizioni che prevalgono nell'essere umano, il quale decide di agire dopo aver valutato gli aspetti positivi e negativi del suo eventuale atto. In tal modo, egli verrà concepito come soggetto a gioia e dolore, gloria e miseria, felicità e dolore e simili. Neanche a dirlo, un essere di tal sorta risulterà fisico e materiale, soggetto alla legge del moto, del mutamento e dello sviluppo graduale. L'essere dotato di questi attributi sarà pertanto contingente, dunque creato, e non potrà in alcun modo identificarsi con Dio, l'autosussistente, il creatore di tutte le cose. Qualora si studino l'Antico ed il Nuovo Testamento, si avrà la prova di come ciò che abbiamo detto sia vero. Essi credono in un Dio corporeiforme e dotato degli attributi peculiari ai corpi, in specie al corpo umano. Quanto invece al Corano, esso dichiara la trascendenza del Signore rispetto a quanto sopra, mostrando come egli sia ben lungi da quanto supposto da simili miti superstiziosi. Esso dice: «Gloria ad Allah di là da quanto gli attribuiscono». 37.157. Abbiamo inoltre numerose prove intellettuali del fatto che Allah è l'uno in cui sussistono tutti gli attributi di perfezione. A Lui spettano l'esistenza senza traccia di inesistenza, la potenza senza traccia di impotenza, la conoscenza senza traccia di ignoranza, la vita senza possibilità, alcuna di morte o di annientamento. Stando così le cose, è impossibile concepire alcun cambiamento nella sua esistenza, nella sua potenza, nella sua conoscenza o nella sua vita. Quando qualcuno diviene oggetto di maledizione, cioè rimosso dalla divina misericordia, ne conseguono povertà e sconfitta in questo mondo e nell'aldilà. Stando così le cose, che senso può avere affermare che Dio è divenuto oggetto di maledizione? Attribuito al termine maledizione il senso che preferite. In ogni caso, esso non potrà essere applicato a Dio, all'autosussistente che soddisfa i bisogni di ogni cosa. L'insegnamento coranico è invero l'esatto opposto di questa allucinante teoria del Nuovo Testamento. Dice Allah: «Zero uomini, voi siete i poveri nei confronti di Allah ed egli è l'autosufficiente, il degno di lode». 35.15. I nomi degli attributi menzionati nel Corano chiariscono come sia impossibile che Allah venga caratterizzato da attributi quali bisogno, carenza, difetto, mancanza, estinzione, male, abominazione, sventura o da tutto ciò che non si confà all'eccellente trascendenza di Allah. Domanda: Dio soffrì e prese su di sé la maledizione soltanto in quanto assunse la natura umana? In se stesso egli è infatti troppo elevato per essere affetto da cose del genere. Risposta: nel farsi uomo il Dio ha forse preso su di sé questa maledizione, nel senso proprio della parola, oppure si tratta soltanto di una metafora o di un'allegoria? Se si risponde affermando di fare riferimento al senso reale della parola, ciò confermerà la nostra obiezione, mentre se si accettasse di cogliere soltanto il senso metaforico, il problema originario resterebbe comunque insoluto. La nascita di Cristo non contribuirebbe a risolvere il conflitto originario fra la divina misericordia e la divina giustizia. Se non fosse stato Dio ma qualcun altro a patire, per via di questa maledizione infamante, il cosiddetto piano dell'espiazione non sarebbe stato adempiuto. Ovviamente, egli non può essere corporeo o possedere attributi analoghi a quelli dei corpi, giacché i corpi e gli oggetti corporei sono soggetti ad alterazione e corruzione, soggiacenza all'incorporeo, carenza e deficienza. Egli non è corpo, né in alcun modo connesso ad un corpo, né è soggetto ad alterazione o mutamento. Egli trascende qualità quali oblio, dimenticanza, errore, pentimento, indecisione, incertezza, reazione, debolezza o sconfitta, nonché tutti gli attributi consimili. Nell'opera presente ci siamo occupati di ciò in sede opportuna, fornendo le relative argomentazioni intellettuali. Coloro che volessero approfondire la tematica sono invitati a fare riferimento al commento dei relativi versi. Il lettore dotato di discernimento è in grado di operare il confronto, da un lato il Corano, che proclama la gloria trascendente del Signore dei mondi attribuendogli la totalità degli attributi di perfezione, affermando che egli è immune da qualsivoglia carenza e ribadendo come egli sia troppo eccelso per poter essere accessibile alla nostra comprensione limitata e caratterizzata da innumerevoli deficienze. Dall'altra vi sono invece l'Antico ed il Nuovo Testamento che descrivono Dio in termini analoghi a quelli propri alle antiche mitologie dei greci, degli indiani e dei cinesi. In tal modo vengono attribuite all'Altissimo nozioni, frutto dell'immaginazione dell'uomo primitivo e concetti cui egli è stato indotto a credere dalla superstizione. In sesto luogo essi affermano che Dio ha inviato suo figlio Gesù Cristo, ordinandogli di incarnarsi nel grembo di una donna onde, oltre ad essere Dio, potesse assumere natura umana. Trattasi della medesima teoria macchinosa confutata dal Corano. Non vi è qui alcun bisogno di ribadire le argomentazioni coraniche contro simili dottrine, in quanto esse sono già state esposte in precedenza. Del pari, una consimile dottrina farraginosa risulta ripugnante per l'intelletto. Consideriamo in primo luogo gli attributi necessari dell'essere autosussistente. La sua essenza è eterna, senza principio o fine, non può essere soggetta al mutamento, e la sua esistenza non conosce limiti. Ricomprende ogni cosa, ma è essa stessa non compresa dai limiti del tempo, dello spazio e della loro concomitanza. Si pensi quindi alla creazione dell'uomo dal momento in cui è sperma, sino a quando diviene un feto nel grembo. A prescindere da quale interpretazione si accetti di questo processo di generazione, quella dei Melchiti, dei Nestoriani, dei Giacobiti o di qualsiasi altra setta cristiana, al termine della riflessione ci si troverà in ogni caso costretti ad ammettere che non può esservi alcuna relazione fra un soggetto dotato di un corpo fisico e dei relativi attributi ed accidenti, ed un essere che non possiede né corpo né attributi concomitanti, quali tempo, spazio o simili. Come è dunque concepibile che la natura umana e la natura divina si fondano in uno? Vediamo dunque come simile teoria non risulti conforme agli assiomi dell'intuizione intellettuale. E questa è la ragione per cui Paolo e le altre guide della cristianità disprezzavano la filosofia e biasimavano il ricorso all'argomentazione logica. Scrive Paolo: «Poiché è scritto, distruggerò la sapienza del saggio e ridurrò a nulla la comprensione del prudente. Cos è il saggio? Non ha Dio resa follia la sapienza di questo mondo? Poiché i giudei chiedono un segno, mentre i greci cercano la sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso». I Corinzi 1:19-23. In questo ed in altri scritti troviamo numerosi pronunciamenti in tal senso. Questa linea è stata adottata al solo fine della diffusione delle loro idee e dell'attività missionaria. Chiunque rifletta su queste epistole, questi libri studia, punto do, il modo in cui essi si indirizzano al lettore potrà comprendere facilmente le motivazioni che fanno loro da sfondo. L'argomentazione precedente dimostra inoltre la loro sincerità nell'affermare: Dio è senza peccato ed immune dal peccato e dall'errore. Il Dio che essi immaginano non è infatti in alcun modo immune dall'errore, ma anzi erra nelle sue percezioni e nei suoi atti. Ovviamente egli non disobbedisce ad alcuno, in quanto non vi è alcuno che gli sia superiore. E questa è la ragione per cui non può sorgere questione di peccato o disobbedienza per quanto concerne Dio. In conseguenza di ciò, è insignificante ed assurdo affermare che egli sia immune dal peccato. In settimo luogo, essi affermano che Dio si è fatto uomo e che è vissuto come uomo fra gli uomini sino a quando è stato sopraffatto dai suoi nemici. Ciò significa ammettere che il Dio autosussistente può assumere in se stesso proprietà peculiaria di esseri contingenti e corporei. Soltanto in tal caso, infatti, si può concepire che due nature dimorino nella stessa persona. Se le cose stessero, così nulla gli impedirebbe di divenire un'altra delle sue creature. Egli potrebbe pertanto assumere la natura di ciascuna delle specie che ha creato. Un giorno apparirebbe come uomo, il giorno dopo come cavallo, talvolta come uccello, talaltra come insetto e simili. Egli potrebbe inoltre assumere al contempo più nature, cioè potrebbe ad esempio manifestarsi in questo mondo come una combinazione di specie differenti, cioè contemporaneamente come uomo perfetto, cavallo perfetto ed insetto perfetto. Del pari egli potrebbe compiere gli atti propri alle sue creature. Se infatti apparisse in una specie, sarebbe logico che si comportasse come membro di quella stessa specie. Procedendo ulteriormente si arriverebbe ad affermare che egli potrebbe conglobare assieme due attributi opposti, come giustizia ed ingiustizia, conoscenza ed ignoranza, potenza ed impotenza, vita e morte, bisogno ed assenza di bisogno. Gloria all'Allah, colui che è esaltato di là, da simili assurdità. In ottavo luogo essi affermano che egli patì in croce e prese su di sé la maledizione, in quanto il crocifisso è maledetto. Cosa intendono dire quando affermano che prese su di sé la maledizione? Nell'uso corrente e comune con maledizione si intende l'incapacità di divenire oggetto della grazia e della misericordia di Dio. Possiamo forse affermare che in tal caso si ricorra al medesimo significato? Oppure si tratta di qualcosa di differente? Se si utilizza il termine nel suo senso corrente e comune, com'è possibile concepire che Dio sia privo della sua stessa misericordia? Oppure come sia possibile che qualcuno tolga a Dio la misericordia? Trattasi di un attributo positivo, della elargizione di favori e doni, di una erogazione della sua eccellenza. Tale presunto piano si basa sull'idea che Dio stesso si sia offerto come riscatto per il genere umano. In nono luogo essi affermano che Gesù ha spiato i peccati di coloro che hanno creduto in Lui, anzi, i peccati del mondo intero. Ciò dimostra come essi fraintendano il senso stesso di espressioni quali peccato ed errore, in quanto non comprendono come il peccato comporti la punizione nell'aldilà o in che modo questa punizione abbia luogo. Essi non riescono del resto neppure a comprendere la relazione fra peccato ed errore da un lato e la divina legislazione dall'altro, né conoscono quale sia a riguardo il ruolo della Sharigrado. Ah, il Sacro Corano descrive invece in modo evidente queste nozioni e queste problematiche. Come abbiamo dimostrato nel commentare il verso 2, 226, in vero Allah non si vergogna di prendere ad esempio, e 2, 213. Gli uomini non costituivano che un'unica comunità. Abbiamo già spiegato come gli ordini e le leggi che costituiscono l'oggetto dell'obbedienza o della disobbedienza, al pari del peccato e dell'errore, sono oggetti mentali derivanti dalla considerazione dei soggetti e sono concepiti al fine di proteggere il benessere della La punizione di una trasgressione è lo spiacevole risultato prescritto, avendo in vista un singolo obiettivo: scoraggiare l'individuo cosciente e responsabile dall'indulgere nel peccato, dal disobbedire alla legge. Questo è stato l'obiettivo dei saggi che hanno impartito leggi al loro popolo. Da questo punto di vista, l'insegnamento coranico si situa invece in una dimensione trascendente, e come abbiamo già dimostrato, questo punto di vista è perorato dall'argomentazione razionale. Quando l'individuo obbedisce alla legge prescrittagli da Allah, la sua anima acquisisce tratti nobili e lodevoli, mentre quando disobbedisce alla legge l'anima assume tratti indegni e contaminati. E l'interiorizzazione di questa trasgressione che prepara rispettivamente la ricompensa o la punizione nell'aldilà. La ricompensa o la punizione sono rappresentate dal giardino o dal fuoco, la cui realtà si identifica con la prossimità ad Allah o la separazione da Lui. In tal modo i meriti o i demeriti degli atti sono basati su un sistema reale complesso, a differenza delle leggi sociali consuetudinarie, che non sono basate che sull'immaginazione e non emanano che da considerazioni d'ordine soggettivo. Non è inoltre un mistero che la legge rivelata rappresenti il perfezionamento ed il compimento della creazione. Essa contribuisce a guidare la creazione alla sua meta ultima. O in altre parole, Allah guida ogni cosa alla perfezione inerente alla sua natura peculiare, cioè alla meta finale del suo esistere. Fra le perfezioni connaturali, all'esistenza umana vi sono un equilibrio comunitario in questo mondo ed un'esistenza beatifica e gratificata nell'aldilà. La via alla perfezione è rappresentata dalla religione che promulga leggi che consentono il benessere alla comunità e contengono indicazioni che consentono l'approssimazione ad Allah. Tali mezzi dell'approssimazione vengono definiti atti di adorazione. Quando l'uomo segue la legge religiosa, la sua vita e le sue condizioni di esistenza ne risultano migliorate e la sua anima si prepara a divenire ricettacolo delle benedizioni di Allah. In tal modo egli si qualifica, nell'anima e negli atti, a ricevere il compiacimento divino nell'aldilà. Tutto ciò emana dalla luce che è deposta nel suo cuore e dalla purezza della sua anima. Ciò in sintesi. L'uomo ha la possibilità di accostarsi ad Allah o di allontanarsi da Lui. Questa prossimità o lontananza sono il fondamento della sua felicità perpetua o della sua sventura, come pure del suo sviluppo comunitario in questo mondo. La religione è l'unico fattore che può consentire questo avvicinamento o allontanamento. Si tratta di fattori reali, non di follia fondata sull'immaginazione o su considerazioni soggettive. Supponiamo ora che un presunto peccato di Adamo, cioè il nutrirsi del frutto proibito, abbia comportato per lui la perdizione, anzi non solo per lui ma per tutti i suoi discendenti, e che a tale sciagura non vi sia rimedio alcuno, eccetto l'espiazione mediante il sangue di Cristo. In tal caso che scopo avrebbe la trasmissione della religione prima di Cristo? Quale sarebbe poi il senso del finalizzare la religione all'avvento di Cristo? E del pari quale può essere il senso del promulgare la religione dopo Cristo? Formuliamo la cosa nel modo che segue. A causa del suddetto peccato, il destino riservato ad ogni uomo si identificava con la dannazione eterna e con la punizione interminabile nell'aldilà. Tale sorte non poteva in alcun modo essere evitata, né mediante il compimento di atti retti, né mediante il pentimento. L'unico rimedio effettivo è allora rappresentato dall'espiazione di Cristo mediante il sacrificio e la crocifissione. In tal caso, per quale ragione Allah avrebbe promulgato la legge, rivelato le scritture ed inviato i profeti ed i messaggeri? Quale senso verrebbe ad avere tutto ciò? Tutte queste promesse e queste ammonizioni non risulterebbero infatti in tal caso non conformi al vero? Quale giovamento avrebbe portato tutto ciò all'umanità, se l'intero genere umano era destinato alla perdizione che era fermamente decretata per esso? Supponiamo inoltre che vi siano stati degli esseri che si siano perfezionati mediante la sincera adesione alle leggi rivelate in precedenza. Questa condizione è stata del resto propria a numerosi profeti ed uomini di Dio delle comunità del passato, come ad esempio i nobili profeti Abramo, Mosè ed altri. Essi vissero in modo perfetto e morirono prima del tempo dell'espiazione. Cosa possiamo affermare a loro riguardo? Forse che la loro vita sfociò nell'infelicità e nella perdizione, oppure in gioia e beatitudine. Quale sarà il loro destino dopo la morte ed il loro passaggio all'altro mondo? Forse la morte comportò per loro castigo e rovina, oppure gli attendevano il compiacimento divino e la ricompensa? Oltre a ciò, Cristo ha detto chiaramente di essere stato inviato per salvare i peccatori e gli empi, mentre i probi ed i virtuosi non avevano alcun bisogno di tale aiuto. Ma gli scribi e i farisei mormorarono contro i suoi discepoli dicendo: «Perché mangiate e bevete con i pubblicanti e i peccatori?» E Gesù rispose loro dicendo: «Non sono i sani ad avere bisogno del medico, ma gli infermi. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.» Luca 5:30-32. Qualora vi si rifletta, si giungerà a concludere che prima della supposta espiazione di Cristo, la promulgazione delle leggi divine e la predicazione dei valori religiosi risultano privi di senso. Non si tratta che di un esercizio vano e privo di utilità. Né è del pari possibile fornire alcuna giustificazione di tale supposto comportamento di Dio. Invero assai assurdo. Ci si può pertanto limitare ad affermare quanto segue. Dio sapeva molto bene che, sino a quando non si fosse posto rimedio al peccato di Adamo, la promulgazione della legge non avrebbe comportato alcun bene. Eppure egli promulgò tali leggi nella speranza che, una volta risolta la difficoltà fondamentale, le leggi stesse avrebbero portato frutto. In tal modo egli diede la legge e la fece diffondere dai profeti, celando la verità agli stessi profeti e al loro popolo. Non disse infatti loro nulla dell'esistenza di un enorme problema che, sino a quando fosse restato irrisolto, avrebbe nullificato l'impegno e gli sforzi dei profeti e dei credenti, ed avrebbe reso le leggi inefficaci ed inutili. Al contrario, egli attribuì un rango elevato alla promulgazione delle leggi e al magistero dei profeti. In tal modo, essi suppongono Dio ingannò gli uomini ed ingannò se stesso. Ingannò gli uomini promettendo loro che la prosperità e la beatitudine sarebbero state conseguenza dell'adesione alla legge, ad ingannò se stesso in quanto, una volta compiuta l'espiazione, la legge sarebbe divenuta irrilevante, priva di effetto per quanto attiene alla sorte degli uomini, in modo analogo a come essa era priva di effetto sino a quando non fosse stato risolto il problema del peccato di Adamo. Ciò per quanto concerne il periodo precedente l'espiazione. Riguardo invece al tempo successivo all'avvenuta espiazione e dai giorni ultimi, la inefficacia e la vanità della legge, della missione dei profeti e della guida impartita da Dio diviene ancor più evidente. Che utilità vi è nel credere in principi rivelati da Dio e nell'operare rettamente ora che il problema del peccato originale è stato risolto e l'espiazione ha comportato perdono e misericordia per tutti gli uomini, credenti o miscredenti, giusti e malvagi, senza alcuna differenza fra il più probo dei virtuosi ed il più reprobo degli empi? Prima della redenzione dal peccato originale entrambi erano condannati alla perdizione eterna, mentre ora essi sono stati redenti dalla summenzionata espiazione. Si rammenti infatti che, se non fosse per l'espiazione, nessun atto umano potrebbe in quanto tale rimuovere la traccia del peccato. Obiezione. L'espiazione risulterà proficua soltanto per coloro che avranno creduto in Cristo. Per questa ragione la missione dei profeti possiede una sua validità ed un suo beneficio, come Cristo ha detto nel Vangelo. Vi dico inoltre che chi mi confesserà dinanzi agli uomini, il Figlio dell'uomo lo confesserò dinanzi agli angeli di Dio, ma chi mi rinnegherà dinanzi agli uomini lo rinnegherò innanzi agli angeli di Dio. Luca 12:8-9. Risposta. Innanzitutto il brano citato contraddice quello del Vangelo di Giovanni, da noi citato in precedenza. In secondo luogo esso distrugge l'edificio teorico sin qui edificato in quanto dal tempo di Adamo sino al giorno estremo, nessuno entrerà nel santuario della liberazione e dell'affrancamento ad eccezione di un gruppo molto ristretto, cioè coloro che credono in Cristo e nello Spirito Santo. Non tutti i cristiani, ma soltanto un gruppo fra tutte le innumerevoli sette verrà salvato, mentre gli altri periranno nella dannazione perpetua. Vorremmo dunque sapere, stando a simile teoria, che cosa accadrà dei nobili profeti che sono stati prima di Cristo e dei credenti delle loro comunità. Quale sarà lo stato della loro missione, delle scritture che essi hanno apportato e della sapienza che hanno predicato? Si trattava della verità o del falso? L'Evangelo conferma la Torah, ma in essa non vi è alcuna menzione dello Spirito Santo come persona, né dell'espiazione. Va dunque affermato che l'Evangelo conferma un libro veritiero, oppure uno contenente innumerevoli menzogne. Domanda. Come sappiamo, i libri rivelati in precedenza contengono la lieta novella dell'avvento di Cristo. Essi annunciano la sua venuta, sebbene non diano alcun dettaglio circa l'espiazione dei peccati. Dio informò i suoi profeti dell'avvento di Cristo affinché essi potessero credere in Lui e rallegrarsi di ciò che avrebbe operato. Risposta. Fare affermazioni riguardo ai profeti che hanno preceduto Mosè grado A significa avventurarsi in una terra sconosciuta. Oltre ciò, se l'avvento di Cristo è stato preannunciato, non vi è alcuna traccia di invito a credere a Lui o a seguirlo. In ogni caso, tale preannuncio dell'avvento non risolve in alcun modo il problema della futilità della legge. Se Cristo ha liberato tutti coloro che credono in Lui, l'esortazione affinché gli uomini si attengano alla legge e coltivino i valori etici risulta del tutto priva di significato. Persino Cristo ha invitato gli uomini ad osservare una norma della religione ed a possedere una condotta retta, ed i Vangeli contengono numerose esortazioni a questo riguardo. Quando anche si ammetta tutto ciò, il problema permane dunque insoluto. Si è parlato del peccato originale e del supposto mancato adempimento dello scopo di Dio. Stando alla dottrina cristiana, tale scopo resta ancora non realizzato. Dio ha creato l'uomo al fine di renderlo oggetto della sua misericordia, di colmare la sua vita di grazie, beatitudine e felicità. Qual è stato invece il risultato di ciò? Tutti gli uomini, ad eccezione di un gruppo assai ristretto, sono destinati ad essere puniti, a soffrire la collera di Dio ed a patire la dannazione perpetua. Queste sono soltanto alcune delle prove intellettuali che dimostrano l'assurdità e la vacuità della dottrina in questione. Gli argomenti intellettuali sono poi confermati dal Corano. Dice Allah: «Il nostro Signore è colui che ha dato ad ogni cosa la sua misura, quindi l'ha guidata». 20 e 50. In tal modo egli ha reso chiaro come ogni cosa venga guidata lungo il corso di sviluppo, conforme alla sua esistenza. La guida è di due specie, creativa e legislativa. Il corso di Allah consiste nell'impartire la guida ad ogni fenomeno, inclusovi la guida religiosa impartita dall'uomo. La prima guida religiosa fu quella impartita ad Adamo e la coloro che assieme a lui furono espulsi dal giardino. Dice Allah: «Uscite da esso voi tutti. Se verrà a voi una guida da parte mia, quindi seguirete la mia guida, nessun timore vi prenderà né vi rattristerete. Quanto a coloro che non credono e smentiscono i nostri segni, saranno i compagni del fuoco, in cui dimoreranno». 2:38-39. I versi citati contengono in embrione ciò che le differenti leggi promulgate sino al giorno del giudizio annunceranno per esteso. Trattasi della legge, con le sue promesse e le sue ammonizioni. Tutto ciò è espresso in termini evidenti e senza ambiguità. Allah dice inoltre: «Io dico il vero». 38:84. «Le mie parole non subiscono alterazione né sono in alcun modo ingiusto con i miei servitori». 50:29. Allah dichiara di non avere alcun dubbio o esitazione per quanto concerne le sue decisioni e di non violare in alcun modo quanto ha promesso. Ciò che ha deciso lo pone in atto, e ciò che ha detto diviene operante. I suoi atti non deviano in alcun modo dal corso che egli ha predestinato. Non si addice alla sua sapienza che egli decida un certo corso di azione, quindi subentri un altro fattore che lo induca a mutare il suo piano, né alcuno può ostacolare il suo piano. Non può accadere che subentri un fattore intellettuale che lo induca a non porre in atto quanto già deciso, né possono subentrare ostacoli nell'attuazione che lo inducano a mutare rotta. Se le cose stessero in tal modo, ne conseguirebbe infatti che Allah è impotente. Allah dice: «Allah prevale nel suo ordine». 12:21. Invero Allah attua il suo proposito. 65:3. Si riporta inoltre che Mosè ha detto: «La scienza del mio Signore è in un libro, ed il mio signore non erra, né dimentica. 20 e 52. Quanto al giorno del giudizio, Allah dice: in quel giorno ogni anima verrà ricompensata secondo ciò che avrà guadagnato. In quel giorno non verrà fatta alcuna ingiustizia. In verità Allah è rigoroso nel rendiconto. 40:17. Questi ed altri versi consimili dimostrano che Allah, dopo aver dato origine alle sue creature, non ha trascurato di prendersene cura, né ha ignorato il modo in cui esse operano, né si dispiace del loro operato. Egli è anzi costantemente solerte riguardo al loro benessere ed ha concesso loro leggi rigorose che sono state impartite senza che dalla loro osservanza Allah si aspetti un beneficio o senza che la loro mancata osservanza possa recargli alcun danno. Egli ricompenserà ogni anima per ciò che avrà operato, il bene col bene ed il male col male. In ciò nessuno può sopraffarlo, né alcuno può imporgli la sua volontà, in quanto egli non ha soci o condomini nel regno. Gli uomini non saranno soggetti ad alcuna espiazione o redenzione. Nessuno può intercedere per un altro senza il permesso di Allah. Supporre altri enti redentori significa negare la signoria assoluta ed incondizionata che egli possiede nei confronti delle sue creature. In decimo luogo, guardiamo con più attenzione a questa fandonia dell'espiazione. Cosa intendiamo con termini quali espiazione o riscatto? Un uomo, o qualcosa pertinente all'uomo, è coinvolto in un crimine o in un peccato, in conseguenza del quale si trova esposto al rischio di perdita della vita o di beni di valore. Egli offre, pertanto, come controparte qualcosa di minore valore al fine di salvare la vita o il bene a cui tiene. Il prigioniero riscatta se stesso mediante il pagamento di un riscatto. I criminali vengono in alcuni casi posti in libertà in seguito al pagamento di una cauzione. In breve possiamo affermare che l'espiazione si identifica con il trasferimento di un diritto dalla persona soggetta al bene offerto il riscatto. In tal modo il riscattato è salvato dalla prigionia o dalle conseguenze dei suoi atti malvagi. Per quanto concerne Allah, è semplicemente inconcepibile applicare nozioni quali kezioni quali kezioni milas kakuni maro malkini maddale milas talhalida cima asilun nasallahu i fudeliti filamare timali silun nasallahu laho talhima e silun nasallahu allukaralu blalame lasallahu lahimahu lasallahu lano e bi quali ritali cheti quelle di ristiazione. La signoria divina, a differenza dell'autorità umana, che è un'idea veramente astratta e fondata su considerazioni soggettive, rappresenta un'autorità reale che non può in alcun modo essere alterata o trasmessa. I fenomeni, le loro specie, i loro effetti, le loro azioni e le loro reazioni sono state create da Allah e seguitano ad esistere grazie a Lui. Trattasi di una realtà e di un fatto. Una realtà ed un fatto non possono però mutarsi in una irrealtà ed in un non fatto. Tale eventualità è persino inconcepibile sul piano logico. Che dire dunque della sua attuazione pratica? La signoria, la possanza e la maestà di Allah non hanno alcuna somiglianza con quelle proprie agli esseri umani. Noi uomini siamo infatti vincolati a norme e leggi. I nostri diritti sociali, le nostre proprietà e la nostra autorità non sono che considerazioni soggettive, idee astratte, fondate sull'immaginazione. Il loro dominio è totalmente nelle nostre mani. Possiamo creare un giorno un dato diritto ed in futuro abolirlo, in ragione del variare dei nostri interessi e delle nostre esigenze vitali. Per ulteriori dettagli, sull'argomento si confronti il commento ai versi 1, 4, 11, padrone del giorno del giudizio, e 3 e 26, 12, di 0 Allah, padrone del regno. Allah ha specificamente confutato la nozione di espiazione nel verso seguente. Quest'oggi non verrà accolta alcun riscatto, né per voi né per i miscredenti la cui dimora è il fuoco. 5 e un quarto. Come spiegato in precedenza analogo, è il valore da attribuirsi alle parole del Messia figlio di Maria, citate da Allah nel Corano. E quando Allah dirà, 0 Gesù figlio di Maria, hai forse detto agli uomini, prendete me e mia madre per due dei all'infuori di Allah. Egli dirà, gloria a te, non mi si addice di affermare ciò cui non ho diritto. Non ho detto loro se non ciò che tu mi hai imposto, di adorare Allah mio Signore e vostro Signore. Sino a che ero con loro sono stato loro testimone, mentre ora che mi hai elevato tu sei colui che li osserva, e tu sei il testimone di tutte le cose. Se li castighi essi sono in vero tuoi servitori, e se li perdoni in verità tu sei il potente e il sapiente. 5, 116-118. Quanto alle parole, sino a che ero con loro sono stato loro testimone, esse hanno il seguente significato. Non ho nulla a che vedere con loro, eccezione fatta per la missione che tu mi hai affidato nei loro confronti, vale a dire trasmettere loro il messaggio ed essere testimone nei loro confronti sino a quando sono restato in loro compagnia. L'eventualità di punirli o di perdonarli dipende esclusivamente da te, Deri. Non ho nulla a che fare con ciò, e non ho alcuna autorità sulla tua volontà, al punto da poterli salvare dal tuo castigo o da poterli condannare alla punizione. In questo modo nozioni quali il riscatto e l'espiazione risultano palesemente confutate. Se infatti fosse esistito un riscatto o un'espiazione, egli non si sarebbe lavato le mani dalla sua comunità nel modo sopra riportato, dicendo ad Allah che dipendeva da lui soltanto il punirli o il perdonarli e chiamandosi in tal modo fuori dal giudizio. Valenza analoga deve poi essere attribuita ai seguenti versi. Guardatevi dal giorno in cui ciascuna anima non recherà alcun giovamento all'altra, né sarà accolta l'intercessione a suo favore, né verrà presa alcuna compensazione, né esse verranno soccorse. 2.48. Prima del giorno in cui non vi sarà scambio, né amicizia né intercessione. 2.245. Nel giorno in cui volgerete in ritirata non ui sarà alcun protettore contro Allah. 40.33. Ovviamente nozioni quali compensazione, scambio e protezione concernono ugualmente dottrine quali quella del riscatto e dell'espiazione. I versi in questione rappresentano pertanto la chiara smentita di simile contorta teoria. Va poi detto che il Corano accetta di considerare Gesù come intercessore, ma non come redentore. Quanto alla nozione di intercessore, ce ne siamo occupati, commentando il verso 2.48.13. Guardatevi dal giorno in cui nessuna anima gioverà all'altra. Ivi abbiamo spiegato che l'intercessione dimostra la prossimità dell'intercessore ed il suo rango elevato presso il Signore, senza che il potere del Signore venga in alcun modo trasferito all'intercessore stesso, senza alterare in alcun modo la signoria ed il dominio del Signore, senza vanificare o abrogare l'ordine del Signore che è stato violato dal peccatore e senza che l'intercessore si identifica pertanto con l'atto mediante il quale l'intercessore chiede all'oggetto di intercessione, cioè al Signore, di guardare con misericordia le sue creature. L'intercessore ammette che il Signore ha il diritto di punire il peccatore in quanto la sua trasgressione lo rende soggetto alla retribuzione prescritta dalla legge, ma chiede al Signore di fare ricorso al suo perdono in quanto egli possiede tanto il diritto di punire quanto quello di perdonare. In tal modo l'intercessore chiede al Signore di esercitare il suo diritto all'indulgenza e dal perdono nei confronti del peccatore divenuto passibile di punizione, senza che ciò alteri in alcun modo il dominio e la signoria di Dio. Quanto invece all'espiazione, trattasi di qualcosa di ben diverso, cioè di un baratto, di uno scambio mediante il quale l'autorità che il Signore possiede sul peccatore è trasferita all'oggetto di riscatto. Nel momento stesso in cui il Signore accetta il riscatto, la sua autorità passa dal peccatore alla vittima. Il fatto che il Messia sia un intercessore è provato dal seguente verso. Quanto a coloro che essi invocano all'infuori di lui, essi non hanno autorità di intercedere, eccetto coloro che rendono testimonianza della verità conoscendola. 43.86. Il contenuto del verso chiarifica che coloro che costituiscono l'eccezione posseggono la facoltà di intercedere. Gesù grado A è senza dubbio uno di coloro che vengono invocati all'infuori di Allah, ma possiede autorità di intercedere in quanto è incluso nell'eccezione. Allah conferma infatti nel Corano di avergli insegnato il libro e la sapienza, e che egli sarà uno dei testimoni che renderanno la loro testimonianza nel giorno del giudizio. Dice Allah: «E gli abbiamo insegnato il libro e la sapienza». 3:48. E riferisce inoltre che Gesù stesso ha detto: «Sino a che ero con loro, sono stato loro testimone». 5:117. A suo riguardo, egli ha inoltre ha detto: «Nel giorno della resurrezione, egli sarà testimone contro di loro». 4:159. Il complesso dei versi sopracitati dimostrano come Gesù, grado A, sia NNO degli intercessori. Tale tematica è stata da noi descritta per esteso nel commentare il verso: «Guardatevi dal giorno in cui ciascuna anima non recherà alcun giovamento all'alta». 2:48. 5. Questa è la posizione cui aderisce la maggior parte dei cristiani. Alcuni di essi, fra cui il vescovo armeno Maris Shak, affermano che non vi è alcun problema nell'astenersi dall'infliggere la punizione che si è annunciata. In altre parole, è moralmente lecito non porre in atto una minaccia, sebbene non sia permesso infrangere una promessa. E tanti sei: «Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e se alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il giusto. Ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo». 1 Gio 2:1-2, T. 7. Per ulteriori dettagli si confronti il commento ai versi 2:35-39, Trad, Ingl, Vol. 1 pp. 178-213. T. 8. Si confronti la trattazione relativa all'infallibilità dei profeti, fornita nel commentare il verso 2:213, Trad, Ingl, Vol. 3 pp. 195-204. T. 9. Si confronti la trattazione relativa alla natura degli atti, fornita nel commentare a versi 2:216-218, Trad, Ingl, Vol. 3 pp. 239-278, Pito. 10. E il tuo Signore si pentì di aver creato l'uomo sulla terra e il suo cuore fu contristato. Gen. 6:6, T. 11. Tredinglingle, voltele volo, 1 pp. 29-31. R. 12. Ibid, voltele 5 pp. 193-202. R. 13. Ibid, voltilici 1 pp. 221-265. R. Origine delle dottrine cristiane. Il Corano rigetta la pretesa secondo cui le teorie e le dottrine di cui ci stiamo occupando siano state originate o diffuse da Gesù, grado A. Tale diffusione dipende invece dal fatto che i cristiani divennero imitatori pedissequi delle loro guide e rimisero completamente il giudizio alle loro mani. Queste guide riuscirono, pertanto, a trapiantare in seno al cristianesimo gli antichi miti dell'idolatria. Dice Allah: «Dicono i giudei, grado Usaire figlio di Allah, e dicono i nazareni, il Messia è figlio di Allah. Queste sono le parole delle loro bocche, imitazione di ciò che dissero quanti già prima di loro furono miscredenti. Che Allah li combatta di quanto si sono distolti. Hanno preso i loro rabbini ed i loro monaci per signori all'infuori di Allah, ed hanno preso per tale il Messia figlio di Maria, mentre non era stato prescritto loro se non di adorare un Dio unico. Non vi è Dio all'infuori di Lui. Gloria a Lui di là da quanto gli attribuiscono». 9:30-31. Chi sono dunque i miscredenti cui Allah fa riferimento con le parole «quanti già prima di loro furono miscredenti»? Per certo non si tratta degli idolatri dell'Arabia preislamica che consideravano gli angeli figli di Dio. La gente del libro, ed in particolare i giudei, ritenevano che Dio avesse un figlio molto tempo prima di venire a contatto con gli arabi. Sembra pertanto che le parole prima di loro furono miscredenti si riferiscano a coloro che furono miscredenti prima dei giudei e dei cristiani. Oltre a ciò non furono gli arabi a creare l'idolatria, ma anzi, la importarono dall'esterno. Si narra infatti che il primo a porre idoli entro la Kagradoba e a chiamare gli uomini alla loro adorazione fu un certo grado Amr ibn Luhai, contemporaneo dell'imperatore persiano Shapur di Hu 1 Aktaf. Egli divenne il capo dei meccani ed assunse il controllo della casa, quindi si recò nella città siriana chiamata Al-Balka, ove conobbe l'adorazione degli idoli. Informatosi a riguardo ricevette la seguente risposta: «Questi sono i nostri signori. Li abbiamo forgiati ad immagine delle divinità celesti e dei saggi fra gli uomini. Cerchiamo il loro aiuto e lo riceviamo. Li preghiamo di concederci la pioggia ed essi fanno piovere». Famr chiese loro in dono uno degli idoli ed essi gli diedero Hubal. Lo portò dunque a Mecca, lo pose nella Kaaba ed invitò gli uomini ad adorarlo. Portò inoltre con sé la coppia di Asaf e Naila e chiamò gli uomini ad adorarli come mezzo dell'approssimazione ad Allah. Queste notizie sono state trasmesse da Sharistani nell'opera Al-Milalua, Nial, come pure da altri autori. E, inoltre, degno di nota, il fatto che il Corano menzioni alcuni degli idoli dell'Arabia narrando la storia di Noè, di Radoa. Questi si lamentò dell'ostinata idolatria del suo popolo che resisteva alla sua predicazione, dicendo: «Non abbandonate i vostri dei, non abbandonate Wad, né suo grado, né Yagut, né Yagrado Uku, né Nasr. 71-23. Oltre a ciò, gli idolatri di Roma, della Grecia, dell'Egitto, della Siria e dell'India erano più vicini alla gente del libro che viveva in Palestina e nei dintorni di quanto lo fossero gli arabi che abitavano una contrada impervia e remota. Era pertanto più facile per i giudei ed i cristiani essere influenzati dalle credenze, dai rituali e dalle gensuetudini di questi popoli. Se ne deduce che i miscredenti dell'antichità, da cui giudei e cristiani hanno tratto la nozione di filiazione divina e che sono citati nel Corano, debbono essere gli antichi idolatri dell'India e della Cina, non che quelli di Roma, della Grecia e dell'Africa settentrionale. La storia rende testimonianza della parentela che esiste fra alcune dottrine proprie a giudei e cristiani e di miti propri a queste nazioni, come nel caso della filiazione e della paternità divine, della Trinità, della crocifissione, dell'espiazione e simili. Trattasi di dati storici su cui il Corano attira la nostra attenzione. Del pari a questi dati storici che si riferisce il seguente verso: «Zero gente del libro, non esagerate nella vostra religione e non seguite i desideri di coloro che furono sviati prima di voi, di coloro che ne sviarono molti e furono sviati dal retto sentiero». 5.77. Questo verso dimostra come l'esagerazione nella religione, cioè l'amore smodato verso alcune creature che conduce ad elevarle al rango di divinità, è derivata alla gente del libro da alcune comunità che già in precedenza erano state traviate e sulle cui tracce procedevano i giudei ed i cristiani. La frase «coloro che furono sviati prima di voi» non si riferisce ai sapienti o ai monaci della gente del libro. Il senso della frase è generale e non condizionale. Non dice infatti «coloro fra voi» o «sviarono molti di voi». Del pari, come abbiamo spiegato in precedenza, queste parole non si riferiscono agli arabi del tempo dell'ignoranza. Oltre a ciò, il verso descrive i traviati come ulteriore fonte di traviamento per altri. In altre parole, si trattava di vere e proprie guide dello sviamento cui veniva prestato ascolto e le cui parole venivano obbedite. All'epoca in questione gli arabi non si trovavano in tale condizione. Si trattava di una massa di illetterati, privi di conoscenza e di qualsivoglia sviluppo civile, al punto che nessun altro popolo poteva certo prendergli a modello. Il caso di Roma, della Persia e dell'India era invece ben diverso, in quanto si trattava di nazioni altamente civilizzate e sviluppate. Conformemente a quanto abbiamo spiegato in precedenza, il verso concerne pertanto gli antichi idolatri della Cina, dell'India e dell'Occidente. Le scritture proprie alla gente del libro ed il loro stato presente. Esistono delle tradizioni in base alle quali gli zoroastriani sono considerati appartenere alla gente del libro, ma non vi è prova coranica esplicita di tale appartenenza. Ciò deve pertanto significare che essi possedevano un libro che al presente è andato perduto, oppure che seguivano uno dei libri menzionati nel Corano, come il libro di Noè, i fogli di Abramo, la Torah di Mosè, l'Evangelo di Gesù o il Salterio di Davide. Essi riconoscono come loro libro sacro soltanto la Vesta, ma esso non è menzionato nel Corano. In senso coranico, l'espressione gente del libro deve pertanto essere riservata ai giudei ed ai cristiani, ciò per via dei libri che sono stati rivelati loro. Le scritture accolte per tali dai giudei includono 35 libri. Il primo è chiamato Torah di Mosè, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. 12 sono chiamati libri dei re, Giosuè, Giudici, Rut, Samuele, i re, Secondo re, i cronache, Esdra, Neemia ed Ester. Vengono poi il libro di Giobbe, il Salterio di Davide, i tre libri di Salomone, Proverbi, Ecclesiaste e Cantico dei Cantici, mentre i restanti 17 libri sono chiamati i profeti: Isaia, Geremia, Lamentazioni, Ezechiele, Daniele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria e Malachia. Di tutti questi libri il Corano menziona soltanto la Torah, Taura di Mosè ed il Salterio Zabir di David. Le scritture accolte per tali dai cristiani includono invece 4 Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, gli Atti degli Apostoli, alcune epistole, 14 di Paolo, una di Giacomo, 2 di Pietro, 3 di Giovanni ed una di Giuda e l'Apocalisse di Giovanni. Ma afferma che un libro denominato Evangelo Ingil fu rivelato a Gesù figlio di Maria. Si trattava pertanto di un singolo libro, non di più libri portanti lo stesso nome. L'autore An-Najjar nell'opera Kasasu, le Ambia, narrazioni dei profeti, cita a riprova di ciò il seguente brano della lettura paolina ai Galati: «Mi meraviglio che vi siate distolti da colui che vi ha chiamato alla grazia di Cristo ad un altro Vangelo, che in realtà non è un altro, ma siete voi ad aver pervertito l'Evangelo di Cristo». 1:6-7. Ciò dimostra in modo irrefutabile come sin dalla formazione della dottrina cristiana essi erano in preda a confusione. Non di meno il Corano testimonia che una porzione della Torah autentica è ancora oggi preservata nelle scritture giudaiche e che una porzione dell'Evangelo è preservata nelle scritture cristiane. Come ti costituiranno a giudice mentre hanno la Torah in cui è il giudizio di Allah? 5:43. Quanto a coloro che dicono, siamo nazareni, abbiamo accolto il loro patto, ma essi hanno dimenticato una porzione di ciò cui 5:14. Entrambi i versi confermano la tesi di cui sopra. Sintesi storica delle dottrine giudaiche e cristiane. Testo aggiornato al 1992, era volgare. La storia dell'Antico Testamento, attuale redazione della Torah. Gli israeliti sono i discendenti di Israele, altro nome di Giacobbe. Sul principio vivevano da nomadi, ma in seguito mossero verso l'Egitto, ove furono impiegati come schiavi. Ciò perdurò sino a quando Allah li liberò mediante Mosè dal faraone e dalle opere sue. Durante la vita di Mosè, egli fu loro guida, gli succedette Giosuè. In seguito, il governo fu affidato alle mani dei giudici, fra cui Ehud e Gocheone. Venne poi l'era dei re. Il primo re di Israele fu Saul, chiamato Talut nel Corano, cui succedettero Davide e Salomone, la pace sia con loro tutti. Dopo Salomone, il regno fu diviso e il potere di Israele si indebolì. Pure la successione ai troni di Giuda ed Israele proseguì con più di 30 re, fra cui Roboamo, Abijam, Geroboamo, Giosafat, Gioram ed altri. Tale assetto separato dei regni di Giuda ed Israele si perpetuò sino a quando il re di Babilonia Nebuchadnezzar Nabucodonosor soggiogò la casa consacrata, Baitul Maqdis, Gerusalemme, attorno al 600 a.C. In seguito i giudei si ribellarono ed egli inviò le sue schiere, pose loro l'assedio, riconquistò la città, la passò a fil di spada, si impadronì dei tesori del re e di quelli del tempio. I babilonesi radunarono i giudei superstiti e ne deportarono circa 10.000, per lo più possidenti, giovani vigorosi o artigiani, dando inizio alla cattività babilonese, mentre i vecchi ed i mendicanti furono abbandonati a Gerusalemme. Nebuchadnezzar nominò Zedechia, l'ultimo re di Giudea, lasciandolo governare in qualità di suo vassallo. Dopo circa 10 anni Zedechia racimolò le forze e prese contatti con il faraone dell'epoca, quindi convinto del sostegno egiziano si ribellò contro Nebuchadnezzar. Questi, vedendo infranto il vincolo di vassallaggio, la popolazione giudaica periva di epidemie e carestia. Nell'anno 586 a.C. le truppe di Nebuchadnezzar prevalsero, massacrarono i giudei, ridussero le loro città in rovina, demolirono il tempio e non lasciarono intatto alcun simbolo religioso. Quando i babilonesi si ritirarono, il tempio era soltanto un cumulo di rovine e polvere. La Torah e l'Arca dell'Alleanza, in cui era custodita, andarono irrimediabilmente perdute. I giudei vissero allora per circa 50 anni come deportati in Babilonia. Il loro libro era andato perduto e non ne restavano che tracce, la loro città era un cumulo di rovine, il loro tempio un ammasso di detriti. Allora Ciro, re di Persia, apparve alla ribalta, sconfisse i babilonesi, conquistò Babilonia e vi pose per un certo tempo la sua residenza, rilasciò i giudei prigionieri e nominò Ezra come loro guida. Questi fu da lui autorizzato a riscrivere la Torah, riedificare il tempio e restaurare i riti e gli atti del culto giudaico. Gli studiosi contemporanei ritengono che la ricostruzione di Gerusalemme in seguito all'editto di Ciro sia avvenuta nel 397 a.C., ma Allah è più sapiente. In seguito egli ricompose la Torah in base alla memoria, compilando il testo della Torah attualmente in possesso dei giudei. Sebbene essi seguitino ad attribuirla a Mosè, pure la sua attuale redazione, tanto nella lingua quanto nella stesura, è postesilica. 14. I primi 5 libri dell'Antico Testamento sono altresì chiamati Torah e Pentateuco. Nel XVIII secolo alcuni studiosi cristiani animati da intento scientifico diedero vita a quella che prese il nome di Alta Critica. Il loro punto di vista è al presente accolto dagli studiosi biblici più eminenti, tanto cattolici che protestanti. Essi sono giunti a concludere che gli autori del presunto testo sacro sono stati innumerevoli e per più anonimi, e che la loro opera si è protratta per circa 1000 anni dopo Mosè, grado A. A titolo d'esempio, citeremo i risultati di questo metodo critico negli anni 50 facendo riferimento al testo Concise Bible Commentary del reversetto W.K. P. L. Clark. Egli afferma: si danno 4 fonti principali del Pentateuco, da farsi risalire rispettivamente ai secoli IX, VIII, VII, VI e V-IV. Già sul principio delle Genesi è possibile marcare 2 stili distinti. La fonte che risulta più antica è quella che inizia dal verso 2, 4. Essa è detta Yavista, dall'uso di denominare Dio col nome Yahweh, e risale a circa l'850 avanti Cristo. Ci si riferisce ad essa con la lettera J. Un'ulteriore fonte è detta deuteronomica e sembra identificarsi col testo della legge rinvenuto sotto il regno di Giosia. La lettera che la identifica è D. La terza fonte è detta sacerdotale ed identificata con la lettera P, dall'inglese priestly, sacerdotale. Buona parte di essa sembra risalire all'esilio babilonese ed essere stata codificata dallo stesso Ezra. Non abbiamo modo di stabilire quanta parte della stesura complessiva di P sia stata preservata dell'attuale testo recepto. Esiste del pari una fonte secondaria, detta codice di santità, identificato dalla lettera H, dall'inglese holiness, santità. Vi è divergenza di opinione circa il fatto che essa risalga a prima del 586 a.C. o a dopo la caduta di Gerusalemme. Ad essa appartengono i versi successivi alle versetto 17 e 28. Qualora si stralcino dal testo attuale i materiali relativi alle fonti P che scorrono paralleli alla narrazione di J.I. e che talvolta ne rappresentano una duplicazione con alcune varianti, avremo a disposizione il materiale di E. Il suo testo corre alternato a quello di J.I. nella Genesi, ma in essa Dio è nominato Elohim, non Yahweh. Il materiale non appartenente a P inizia in Genesi 28:17. La redazione eroista, identificata con la lettera E, sembra più matura dal punto di vista religioso e si pensa sia stata posta per iscritto attorno al 750 a.C. In che modo dunque le quattro fonti principali sono state combinate per dar vita alla presente redazione del Pentateuco? La prima fusione realizzatasi nel corso della storia è quella di J ed E. Ciò deve essere accaduto dopo la caduta di Samaria nel 721 a.C. Questo materiale già sintetizzato prende il nome di J.E. Quando, attorno al 621 a.C., fu scoperto il materiale deuteronomico, o almeno parte di esso, si decise di sommare D con J.E. Ciò deve essere accaduto durante l'esilio, periodo cui pure risale la stesura scritta di buona parte di J.E. P. fu composto in Babilonia e portato a Gerusalemme da Ezra nel 397 a.C. Editori successivi fusero quest'ultimo materiale con Jed, dando vita all'attuale testo del Pentateuco, attorno al 300 a.C. circa. Il reversetto Clark conclude la sua esposizione con le seguenti parole. Probabilmente l'attuale stesura della Genesi è opera del concorso di una moltitudine di individui che hanno seguitato a scrivere nell'arco di circa 1000 anni. Quanto a quei pochi cristiani che, incuranti dei risultati scientifici, seguitano a identificare Mosè con l'autore del Pentateuco, il reversetto Clark ribadisce che essi debbono ammettere che è stato riscritto dalle generazioni successive al fine di modernizzarne il linguaggio. Ciò deve essere ammesso in quanto è altamente improbabile che l'ebraico parlato da Mosè possa corrispondere alla lingua in cui attualmente è scritto il Pentateuco. Si confronti il Westminster Dictionary of Bible, subvoce Pentateuco. Qualora si rifletta su quanto sopra, ne risulterà che la catena di trasmissione del testo del Pentateuco è interrotta e che non esiste una trasmissione diretta attendibile che risalga sino a Mosè, fatta eccezione per un ignoto trasmettitore, vale a dire Ezra. In primo luogo ignoriamo chi fosse Ezra, in secondo non sappiamo quanta parte della Torah conoscesse a memoria, quale fosse il suo grado di comprensione del testo rivelato, in terzo luogo non sappiamo quanto egli sia stato scrupoloso ed attendibile, in quarto luogo non sappiamo in base a quali fonti abbia proceduto alla sua revisione del testo, ed infine ignoriamo quali fonti autentiche abbia consultato al fine di correggere eventuali interpolazioni infiltratesi nel testo. Questa situazione precaria ha dato origine ad un'altra fantasiosa ipotesi. Alcuni studiosi occidentali sono giunti a negare l'esistenza storica di Mosè grado A e degli eventi connessi alla sua missione. Essi affermano che si tratta di un personaggio mitico mai esistito. Del pari altri studiosi hanno proposto la medesima cosa. Riguardo a Gesù figlio di Maria, grado A, da parte nostra non possiamo nutrire dubbi. In tal senso, in quanto come musulmani, crediamo a quanto il Corano riporta della missione dei profeti, la pace sia con loro. 2. Storia di Gesù, la pace sia con lui e dell'Evangelo. I giudei attribuivano grande importanza alla loro storia. Essi hanno preservato una cronaca aggiornata delle vicissitudini storiche del loro popolo. Non di meno, scorrendo le loro cronache, appare che a Gesù figlio di Maria e sua madre non è attribuita che un'importanza minima nella storia di Israele. La letteratura giudaica, post-cristiana, non getta alcuna luce sulla sua nascita o sulla sua missione, e non riporta in modo veritiero la sua condotta o la sua biografia. Del pari i giudei hanno passato sotto silenzio i miracoli di Gesù e non precisano il modo in cui egli ha lasciato questo mondo. e forse morto in modo naturale, o ucciso, o crocifisso. Zero in qualche altro modo. Perché questo silenzio? Perché l'atto con cui Gesù, figlio di Maria, abbandona la compagnia degli uomini e passato sotto silenzio? Perché essi hanno taciuto a riguardo? Il Corano menziona che i giudei hanno falsamente accusato Maria e l'hanno calunniata per via della nascita del Messia e descrive il loro tentativo di ucciderlo. E per la loro miscredenza nell'avere pronunciato contro Maria una grave calunnia. E per aver detto, in verità abbiamo ucciso il Messia Gesù figlio di Maria, l'inviato di Allah, mentre non lo hanno ucciso né lo hanno crocifisso, ma ciò apparve loro. In verità essi differiscono a riguardo e sono in preda al dubbio. Per certo non lo hanno ucciso. 4.156-157. Le calunnie contro Gesù e sua madre furono trasmesse in forma orale per poi essere raccolte nel compendio talmudico palestinese. Perché gli eventi narrati a voce non vennero immediatamente tracciati per scritto? Ciascuna nazione possiede il suo folklore, i suoi miti fantastico-simbolici. Essi non debbono essere presi per eventi storici, salvo nel caso in cui risultino basati su fonti esatte ed autorevoli. Sembra che i giudei, nell'ascoltare la predicazione dei Nazareni, vennero a conoscenza di quanto si riportava della nascita e della missione di Gesù. Fu forse allora che presero a calunniare Maria e a pretendere di aver ucciso il Messia? A questo interrogativo non siamo in grado di fornire risposta esplicita. Quanto invece al contenuto letterale del testo coranico ai giudei è ascritta soltanto la pretesa «abbiamo ucciso il Messia», mentre la crocifissione è negata senza che si menzioni la posizione dei giudei a riguardo. Il verso afferma inoltre che essi sono in preda a divergenze interminabili ed opinioni basate su congettura e dubbio. Quanto ai cristiani nostri contemporanei, essi apprendono la predicazione della lieta novella di Gesù dalla parola evangelica. Essi riconoscono per canonici quattro cosiddetti Vangeli, cui è stato attribuito il nome fittizio di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Essi considerano inoltre parte del canone neotestamentario gli Atti degli Apostoli, considerati opera del terzo evangelista, ed alcune epistole che vanno sotto il nome di Paolo, Pietro, Giacomo, Giovanni e Giuda. È degno di nota, ma per lo più ignoto alla maggioranza dei cristiani, che la stesura delle epistole risulta precedere quella della compilazione dei Vangeli. Il Vangelo secondo Matteo, per secoli la tradizione della Chiesa ha ritenuto codesto Vangelo come il più antico quanto a data di compilazione. I cristiani dell'antichità affermavano si trattasse di un'opera del 38 d.C., quindi si sposta la data, al 50 circa, poi al 60. Gli studiosi cattolici contemporanei ammettono ormai che l'identificazione sin qui, data dagli storici e dai padri della Chiesa, è infondata ed insostenibile. Il presunto Matteo non può essere identificato con Levi il pubblicano, cioè con uno dei 12 apostoli di Gesù, né tantomeno può trattarsi di autore che sia testimone oculare della vita di Gesù. Il cosiddetto Matteo rimaneggia fonti precedenti, aggiungendo ad esso contenuti fiabeschi. 15. Gli studiosi cristiani antichi e contemporanei concordano sul fatto che la redazione originaria del testo chiamato Matteo sia stata composta in lingua aramaica. Tale manoscritto non è però mai giunto fino a noi. Non possiamo pertanto, dando per buona la loro ipotesi, in alcun modo vagliare la attendibilità e la fedeltà della traduzione dall'aramaico al greco 16. Il Vangelo secondo Marco si è identificato Marco con uno dei discepoli di Paolo. Dando per buono ciò, già si potrebbe concludere che l'autore non è stato in alcun modo testimone oculare della vita di Gesù. 17. Alcuni autori affermano che i destinatari dello scritto debbono identificarsi con una comunità periferica. E questa è la ragione per cui Gesù è presentato come inviato da Dio e zelante per la legge. Originariamente si situava la stesura del testo verso l'anno 61 d.C. al presente si suppone che sia il più antico dei sinottici. Il Vangelo secondo Luca, il cosiddetto Luca, non era uno dei discepoli né aveva mai conosciuto Gesù, da che tutto quello che aveva sentito proveniva da Paolo. Questi, alias Saulo di Tarso, era un giudeo ellenizzante nemico spietato di Gesù e dei Nazareni. Egli perseguitò i seguaci di Gesù e si diede da fare per scovare i luoghi in cui si riunivano. D'improvviso mutò partito dopo essere stato vittima di un attacco epilettico in cui gli era apparso un Cristo fantasmatico che lo aveva ammonito contro il cattivo trattamento dei Nazareni. Secondo le sue pretese, sarebbe divenuto cristiano in stato di trance e, sempre in questo stato psicopatologico, avrebbe ricevuto l'unzione ad apostolo di Cristo. Lo studio delle fonti attualmente a disposizione degli studiosi consente di comprendere che la religione che va sotto il nome di cristianesimo risale a questo Paolo di Tarso, il quale ha sostituito le parole dell'uomo Gesù vissuto fra gli uomini con le supposte rivelazioni del fantasma cristico. L'incremento degli studi esegetici consente di distinguere sempre più palesemente fra loro il Gesù di Nazareth e lo spirito delirante apparso a Saulo. Rendendo vano quanto il profeta Nazareno aveva insegnato agli uomini, Saulo dichiarò lecito che i cristiani si nutrissero di porco e di carogne, errore che essi continuano a pagare sino al giorno d'oggi. Egli del pari proibì la circoncisione sanzionata dalla Torah come perpetua, ed irrise all'osservanza dalla legge di Dio. Siamo qui di fronte alla più profonda ed al contempo alla più arcaica della falsificazione del messaggio cristiano. L'Evangelo di Gesù era stato rivelato come conferma della Torah di Mosè con adattamenti soltanto secondari. Gesù grado A era stato inviato al fine di confermare la Torah e di ricondurre ad essa i traviati. Gli si attribuì invece l'aver abrogato la legge per sostituirla con una non meglio definita grazia. Luca scrisse dopo la morte di Pietro e Paolo. Dal testo in questione ricaviamo la netta prova del fatto che l'autore evangelico non considerava affatto il suo scritto come Vangelo o parola del Signore, ma come narrazione umana e fallibile. Si leggano i versi con cui inizia il cosiddetto Vangelo secondo Luca, poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che si sono compiuti tra noi, secondo che ce li hanno tramandati quelli che da principio furono i testimoni oculari e che divennero ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo avere sin dall'origine tenuto dietro ogni cosa accuratamente, di scrivertene con ordine. O eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Luca 1:1-3. Il lettore avveduto non dubiterà certo del fatto che l'autore del testo intendeva non certo fungere da divino rivelatore, ma formulare il suo punto di vista su un evento di cui non era stato testimone diretto. L'autore della Vulgata, Gerolamo, afferma che alcuni dei padri dubitavano dell'autenticità dei primi due capitoli del Vangelo secondo Luca. Tali due capitoli risultano inoltre mancanti dal canone paolino più arcaico, quello dei Marcioniti. Fra gli studiosi moderni, Eichhorn dichiara nell'opera citata, P95, che i versi 43-44 di Luca 22 debbono essere considerati interpolazione tardiva. A Pag 65 gli scrive: alla descrizione dei miracoli riportata da Luca sono state mescolate narrazioni fantastiche. Il redattore le ha accolte come esagerazione poetica. A questo punto diviene difficile separare il vero dal falso. Quanto alla dottrina dei Marcioniti, cioè dei seguaci dello gnostico Marcione 18, morto attorno al 160 d.C., essa è il frutto più diretto del travisamento secondo cui alla predicazione di Gesù viene sostituita la fantasmagorica teoria di Paolo. Da veri successori dell'ebreo errante, Marcione ed i suoi seguaci rifiutano la legge e dichiarano di credere esclusivamente nel Vangelo dell'amore. L'innovazione paolina ha infatti aperto la porta all'oblio della testimonianza diretta, relativa all'uomo Gesù Cristo, creatura di Dio e suo inviato, agli apostoli e a coloro che ascoltarono la predicazione diretta dalla bocca del Nazareno. E questa è la ragione per cui le sette cristiane che sarebbero sorte in epoca successiva hanno sostituito la storicità di Gesù con la mitologia del supposto Cristo, cioè del fantasma apparso sulla via di Damasco. Il Vangelo secondo Giovanni, lungo il corso dei secoli le gerarchie cristiane hanno diffuso la diceria secondo cui questo scritto era opera di un testimone diretto, cioè di Giovanni figlio di Zebedeo, uno degli apostoli, anzi il discepolo, che egli amava. I critici contemporanei, tanto cattolici quanto protestanti, hanno ormai reso giustizia al carattere tardivo di questo testo, la cui stesura è situata attorno al 90 d'Oppanto. La comparizione con i sinottici consente infatti di stabilire che il testo in questione appartiene ad epoca successiva a quella dei primi tre Vangeli, quando erano ormai ispirati coloro che erano stati testimoni della parola e pertanto si attenevano alla legge. Mentre Marco e Luca possono essere colti come strumenti di propagazione del paolinismo, il Vangelo giovanneo mostra già la prima fioritura. L'avere abbandonato il Gesù Nazareno per seguire il fantasma paolino condusse entro breve tempo, durante la stessa vita di Saulo, al proliferare delle allucinazioni psicofantasmatiche. In tal modo il fondamento della religione fu affidato alle visioni oniriche. Se grazie ad una accorta politica di fiancheggiamento delle autorità politiche del tempo, i paolini erano giunti a scalzare la comunità apostolica gerosolinitana originaria, dando libero sfogo al rigetto della legge di Dio, lo strumento fallace dell'apparizione visionaria epilettico non conobbe più limiti, e ciascuno dei caposcuola delle molteplici sette gnostiche si industriò a congegnare edifici onirico-simbolici, con processioni di sfere concentriche ed apparizione del vincolo privilegiato fra l'imperatore Costantino e i vescovi latini consentì in seguito alla corrente che aveva posto in Roma la sua sede di far scomparire. Questo scempio delle testimonianze più autorevoli ha privato le generazioni successive di gran parte dei documenti arcaici, cioè di quei materiali che, qualora fossero sopravvissuti, avrebbero rappresentato il più fertile fra gli strumenti dei biblisti. Al Concilio di Nicea, 325 d.C., risale la fissazione del canone ufficiale delle scritture. Fortunatamente, dal momento che le medesime autorità non poterono proibire la circolazione delle opere dei padri ritenuti ortodossi, sopravvivono documenti in cui vengono citati frammenti dei materiali scomodi e classificati come eterodossi. È così che in alcuni frammenti è attribuito allo gnostico Cerinto XIX l'insegnamento relativo alla sola natura umana di Gesù. Secondo il suo insegnamento all'atto del battesimo, discende su Gesù un potere divino superiore, che lo abbandonò al momento della crocifissione. Come filiazione più prossima alla originaria chiesa giudaico-cristiana dovesi cogliere la setta degli Ebioniti. 20. I quali si fecero fautori dell'osservanza della legge mosaica e si astennero dal consumo di bevande inebrianti. La maggioranza degli studiosi cristiani contemporanei tende ad attribuire il cosiddetto Vangelo di Giovanni ad un non meglio identificato autore alessandrino, per giunta conoscitore della terminologia filosofica greca. Vi è divergenza fra i biblisti circa il fatto che a questo autore debba essere attribuita la prima delle epistole, che vanno sotto il nome di Giovanni. Quanto alla attribuzione all'apostolo Giovanni, essa viene considerata artificio letterario cui l'autore è ricorso al fine di incrementare l'autorevolezza dello scritto. E questo è il motivo che ci induce a lanciare un appello agli studiosi biblici e alla coerenza delle loro pubblicazioni. Se da un lato gli studiosi cattolici e protestanti sembrano aver raggiunto il consenso sul carattere tardivo e comunque di seconda o terza mano degli scritti biblici, pure seguitano ad essere stampati e distribuiti catechismi ed opuscoli biblici in cui ancora si propala la fola dell'attribuzione tradizionale. Li invitiamo pertanto ad adeguare la loro catechesi ai risultati dei loro stessi biblisti. Quanto dunque al corpo della narrazione dei canonici, è certo che la trasmissione della narrazione dipende da sette persone, cioè Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Pietro, Paolo e Giuda. I risultati scientifici della critica biblica contemporanee hanno però dimostrato che nessuno di questi individui è l'autore degli scritti sopra menzionati, ma che le loro attribuzioni debbono essere considerate artificio letterario che consente di rivestire di autorità i testi stessi. Sappiamo come i quattro Vangeli detti canonici siano tutti inequivocabilmente successivi alla diffusione del paolinismo. E questa è la ragione per cui essi non posseggono il carattere di documenti storici, ma di narrazioni mitologiche. I cosiddetti Vangeli canonici narrano la vita di Gesù nel modo che segue. Da Maria nacque fra i figli di Israele Gesù. Il marito di Maria, Giuseppe il falegname, ebbe soltanto funzione di padre putativo. In seguito Gesù iniziò a chiamare gli uomini a Dio, fu accusato di farsi eguale a Dio e morì per l'espiazione dei peccati mediante crocifissione. Durante la vita terrena curò il cieco ed il lebbroso, cacciò i demoni dagli ossessi, scelse 12 apostoli e li inviò a propagare la sua religione. Tale carattere fiabesco ed inverosimile della narrazione ha indotto taluni studiosi laici occidentali ad affermare che Gesù figlio di Maria è un essere mitico e che la descrizione evangelica rappresenta soltanto uno dei frequenti casi in cui capo politico viene divinificato e subisce apotesi alla sua morte. Vi è poi chi ha fatto osservare come gli scritti evangelici, mentre possono essere utilizzati come materiale della comparazione storiografica, possono altresì dare frutti assai proficui nel dominio della mitologia comparata. Il modo in cui le scritture cristiane descrivono la vita di Gesù Cristo presenta innumerevoli e sorprendenti analogie con la descrizione della vita di Krishna, contenuta in testi quali il Mahabharata ed il Bhagavata Purana. Gli idolatri dell'India trasmettono e credono che Krishna, pur essendo nato fra gli uomini, era in realtà la seconda persona della Trimurti Hindu, vale a dire Vishnu, e inoltre sorprendente il paragone secondo cui anche Krishna ha nella mitologia indiana un padre putativo, chiamato Vasudeva. Quanto poi ai fenomeni naturali che secondo i Vangeli caratterizzarono la nascita di Gesù e la sua vita, gli astronomi non riescono a reperire traccia di essi né mediante il calcolo né mediante la testimonianza storica. Sembra dunque che, in base alle fonti scientifiche in nostro possesso, eventi quali l'apparizione della cometa, il terremoto, la resurrezione dei morti e lo squarciamento della cortina del Tempio siano passati del tutto inosservati alla generalità degli autori dell'epoca in cui simili eventi avrebbero dovuto verificarsi. Ciò vale del resto per tutte le questioni connesse all'analisi scientifica della cronologia evangelica, dal censimento di Cesare Augusto all'anno della supposta crocifissione. Gli studiosi contemporanei sono infatti unanimi nel riconoscere che persino la datazione dalla nascita di Cristo al presente in uso in Occidente è errata e seguita ad essere utilizzata per ragioni cronologiche. I cristiani d'Occidente ed Oriente, cioè i cattolici e gli ortodossi, divergono quanto alla datazione della stessa Pasqua. Quanto poi ai criteri di trasmissione del testo, va detto che al presente non vi sono né scritti né frammenti evangelici preservati nella lingua originale in cui Gesù ha parlato, vale a dire l'aramaico. Quanto ai Vangeli precedenti, i quattro canonici, o da essi divergenti, furono dati alle fiamme, mentre il materiale selezionato come ortodosso fu manipolato. 21. Nel 384, il Papa Damaso ordinò la preparazione a beneficio della Chiesa di una nuova traduzione latina dell'Antico e del Nuovo Testamento. Ciò in seguito alle pressioni dell'imperatore Teodosio, stanco delle perduranti polemiche testuali cui si abbandonavano i vescovi. L'ordine fu adempiuto da Gerolamo l'Eremita. Quanto alla fedeltà di questo testo, va detto che il traduttore opera con intento censorio laddove gli sembra più opportuno, al punto che, ad esempio, nel testo dei Salmi, la frase «Zero Dio proteggi il re» viene tradotto con «Zero Dio proteggi la nostra virtù». Quanto invece al testo di Isaia, Gerolamo traduce con «Vergine» la parola ebraica, «Almaf», avente il segno di «fanciulla». Di ciò derivano le questioni mariane di cui sono preda i cristiani contemporanei. Fra gli Evangeli antipaolini e pertanto votati alla distruzione sopravvive quello di Barnaba 22, apostolo di Gesù Cristo, giuntoci in una redazione italiana del XVI secolo d.C. ed in posteriore versione castigliana. Esso consente di stabilire quanto grande e marcata sia la distanza che separa il cristianesimo dal paolinismo. È, invero, poi sorprendente che le fonti giudaiche tacciano sui particolari della missione di Cristo che più sono messi in evidenza dai cristiani, vale a dire filiazione divina, espiazione e simili. Come esempio di letteratura apologetica cui, al pari dei testi neotestamentari, viene attribuito autore fittizio, si confronti il frammento di lettera fra il medico romano Esculapio Cultello e suo nipote Gladio Ensas. Essa è fatta risalire al 62 d.C. Va da sé che gli stessi nomi dei personaggi dimostrano come l'autore anonimo ricorra ad attribuzioni fittizie, ad edificazione dei fedeli. 23. Nella lettera si dice fra l'altro: alcuni giorni or sono stato chiamato a visitare un uomo di nome Paolo. Sembrava un cittadino romano di origine giudea, ben educato e dai modi affabili. Un mio amico mi aveva narrato che aveva sentito parlare di lui ad Efeso, ove predicava la dottrina di un nuovo strano Dio. Chiesi dunque al paziente se ciò rispondesse al vero. Paolo rispose che il regno di cui parlava non era di questo mondo. E aggiunse numerose altre stranezze che mi restarono incomprensibili. Dal momento che ne avevo ricevuto una buona impressione, fui triste di apprendere che alcuni giorni dopo egli fu giustiziato sulla via per Ostia. Ti chiedo, pertanto, quando visiterai Gerusalemme, di procurarti informazioni sul mio amico Paolo e su questo strano profeta giudeo che sembra essere stato il suo maestro. Vorrei che tu possa dirmi il vero circa queste dicerie. 6 settimane più tardi Gladio Ensa, centurione della settima legione, detta Gallica, rispose come segue allo zio. Ho parlato con molti fra gli anziani della città, ma ben pochi sono stati in grado di fornirmi indicazioni precise. Alcuni giorni or sono venne all'accampamento un ortolano, presi da lui delle olive, e gli chiesi se aveva notizie del famoso Messia che era stato ucciso alcuni anni prima. Disse di ricordare la cosa molto chiaramente. Mi diede inoltre il recapito di Giuseppe, che era stato amico personale del Messia, e mi disse che, se volevo ulteriori notizie, avrei fatto meglio a mettermi in contatto con lui. Quest'oggi stesso mi sono recato da Giuseppe. Era un anziano che da giovane aveva esercitato la professione di pescatore sul lago. La sua memoria era chiara. E da lui ho infine recepito una narrazione di questi eventi verificatisi poco prima della mia nascita. Reggeva allora l'impero Tiberio Cesare ed il governo della Giudea e della Samaria era affidato al tribuno Ponzio Pilato. Nell'anno 783 o 784 dalla fondazione di Roma, a causa di una sommossa, Pilato fu chiamato al tribunale per emettere giudizio. Un certo giovane, figlio di un carpentiere di Nazareth, era accusato di sollevare la rivolta contro l'impero di Roma. Fummo sorpresi del fatto che i nostri scaltri ufficiali non ne sapessero nulla, ma in seguito ad indagine risultò che l'accusato, figlio del carpentiere, era cittadino probo e che pertanto non vi era ragione di procedere contro di lui. Stando alla narrazione di Giuseppe, i capi dei giudei erano molto turbati ed erano scontenti della sua crescente popolarità fra la massa dei poveri giudei. Essi dicevano: il Nazareno ha pubblicamente affermato che un greco, un romano o un palestinese che vive in modo retto o decoroso è pari ad un israelita che trascorre notte e giorno dilettandosi nello studio della legge di Mosè. Ovviamente a Pilato importava ben poco di ciò, ma allorquando la folla nei dintorni del tempio minacciò di linciare Gesù e di uccidere i suoi seguaci, decise di prendere in consegna il figlio di falegname e di custodirlo al fine di salvargli la vita. Egli sembrava non comprendere con esattezza la ragione reale del diverbio. Quando interpellava i sacerdoti dei giudei, costoro pronunciavano parole quali eresia, tradimento, ed erano terribilmente in preda alla collera. Allora, proseguì Giuseppe, Pilato decise di mandare a chiamare Gesù grado A, poi C. Questo era il vero nome del Nazareno, mentre i greci lo chiamavano Jesus, al fine di interrogarlo di persona. Lo tenne presso di sé nell'interrogatorio per circa 7 ore e gli pose domande sulle dottrine scandalose che avrebbe predicato sulle sponde del mare di Galilea. Gesù rispose di non interessarsi del regno di questo mondo, di non curare il corpo dell'uomo ma la sua anima. Egli chiamava gli uomini ad amarsi gli uni agli altri e ad adorare un solo Dio, Padre di tutti i viventi. Essendo bene informato delle dottrine degli stoici e degli altri filosofi greci, Pilato non scorse alcunché di sedizioso nei discorsi di Gesù. Il mio informatore mi riferì, anzi che fece un ulteriore tentativo di salvare la vita di tale nobile profeta, evitandogli l'esecuzione. Nel frattempo, i giudei, infiammati dalle esortazioni dei sacerdoti, erano in preda ad una collera montante. Ne nacquero disordini in Gerusalemme, mentre le truppe romane di stanza erano scarse. Le autorità di Cesarea furono informate del fatto di Pilato era caduto preda degli insegnamenti del Nazareno. Si voleva ora accusare Pilato di essere un nemico dell'impero. Sai bene da te che i nostri governatori hanno rigorose istruzioni di non porsi in aperto conflitto con i sudditi soggetti. Allo scopo di salvare il paese dalla guerra civile, Pilato sacrificò il prigioniero Gesù, che si comportò con grande dignità, perdonando a tutti coloro che lo condannavano. Fu crocifisso fra i lazzi e le risa della plebaglia di Gerusalemme. Questo è quanto mi disse Giuseppe, mentre le lacrime gli rigavano le guance. Nel partire intendevo donargli un denaro d'oro, ma lo rifiutò chiedendomi di donarlo a qualcuno più povero di lui. Gli chiesi allora del tuo amico Paolo e mi disse di averlo conosciuto di sfuggita. Sembra facesse il fabbricante di tende, che avesse abbandonato la professione per dedicarsi a predicare le parole di un Dio di amore e di perdono, ben diverso dal Geova di cui erano soliti parlarci i sacerdoti giudei del Tempio. Dopo di ciò sembra che Paolo abbia viaggiato in Asia Minore ed in Grecia, dicendo agli schiavi che erano figli di un Dio benevolo e che era in serbo, per essi tutti la felicità, tanto per i ricchi quanto per i poveri. I primi, dal canto loro, erano tenuti a vivere in modo onesto e a beneficiare i sofferenti ed i miseri. 24. Da un documento del genere di quello citato in precedenza, è agevole comprendere come in seno alla comunità degli israeliti sia ad un certo momento sorta una setta che si richiamava agli insegnamenti di Gesù. In questo stadio iniziale Gesù era ancora presentato secondo verità, cioè come profeta inviato da Allah, attiment re. Non erano sorte ancora le dottrine che facevano di lui un Dio in terra, incarnatosi al fine di redimere l'umanità mediante l'espiazione sanguinaria. 25. In seguito alla supposta crocifissione riguardo alla quale i testi evangelici, canonici ed apocrifi seminano un dubbio insanabile, alcuni pretesi discepoli di Cristo, ma in realtà seguaci della setta paolina, si recarono nelle varie regioni del mondo allora conosciuto, cioè in India, in Africa ed in Italia, al fine di predicare la nuova dottrina, indistricabile sintesi di sparuti materiali di origine giudaica e speculazioni fantastico-misteriosofico di matrice greca. Ben presto però, col procedere dell'attività missionaria, sorsero i primi scismi relativi all'insegnamento della nuova religione. Cristo era forse Dio? Credere in Lui era forse sufficiente al conseguimento della salvezza, senza necessità di osservare la legge di Mosè? La religione evangelica era forse un nuovo culto che abrogava quello mosaico? Oppure si trattava semplicemente del completamento del giudaismo stesso, che Cristo aveva portato a perfezione? La risposta a simili interrogativi fu causa della divergenza delle sette, che pullularono in guerra tra loro sino a quando prevalse quella che aveva scelto l'alleanza col potere costituito. Va rammentato che tutte le nazioni in cui si propagò il cristianesimo post-paolino, cioè romani, greci e barbari, erano adoratori degli idoli al pari dei Sabei e degli attuali indù e buddisti. Tutti questi popoli erano pertanto caratterizzati da una tendenza alla mitologizzazione della religione che trova la sua massima espansione nel cosiddetto brahmanesimo. Tutti i culti pagani professano fra i principi della loro fede l'incarnazione di dei che nascono in forma umana e concepiscono gli dei come generanti figli. Tutti professano una triade di divinità supreme, un principio di unità nella Trinità. Del pari il sacrificio cruento delle vittime consacrate a Dio è concepito dai pagani come espiazione dei peccati. Sono queste le dottrine proprie dell'India, della Cina, dell'antico e medio Egitto, della Caldea, della Siria, della Persia. Erano del pari idolatri i romani e le popolazioni nordico-arie. Il lettore interessato ad approfondire la tematica è esortato allo studio della storia comparata delle religioni. Scrive Thomas William Doane nell'opera I miti biblici e i loro paralleli nelle altre religioni, comparazione dei miti e dei miracoli dell'Antico e del Nuovo Testamento con quelli propri alle nazioni pagane dell'antichità, considerati secondo la loro origine ed il loro significato. Tornando all'India, vediamo che uno dei tratti salienti della teologia indù è la dottrina della triade divina che presiede a tutte le cose. Questa triade è chiamata Trimirti, dal sanscrito tri uguale tre e mirti uguale persone. Essa è formata da Brahma, Vishnu e Shiva. Trattasi di un principio unico che appare in triplice forma. Quanto alla seconda persona, cioè Vishnu, altri non è che il Signore e Salvatore Krishna. Lo Spirito Supremo, al fine di preservare il mondo, produce Vishnu, il quale si incarna in questo mondo nella forma di Krishna. Egli è pertanto da loro considerato incarnazione dell'essere supremo. 26. Scrive Fabre d'Olive nell'opera Fiabe e miti degli antichi egizi. Fra gli indù abbiamo la triade Brahma, Vishnu e Shiva, mentre fra i buddhisti conosciamo il rifugio nel triplice gioiello, identificato con la Trimurti indù. Quanto alla setta buddista Sikh dei Jainisti, in essa prevale la dottrina del triplice Jiva, in cui si incarna la Trimurti. Fra i cinesi adoratori del buddismo troviamo che il Dio Fo si moltiplica misteriosamente in tre persone. 27. I sacerdoti di Menfi in Egitto spiegavano al novizio il mistero secondo cui dalla prima monade creata sorse la diade, dalla quale si dipartì la triade, e questa triade a splendere in tutta la natura. Quando il monarca Tolomeo consultò l'oracolo di Serapide, il dio creato in occasione della fondazione di Alessandria, chiese: «Dimmi se vi è qualcuno più grande di me, o se vi sarà mai alcuno più grande di me». L'oracolo gli rispose: «Dapprima Dio, quindi il Verbo, infine lo Spirito, tutti della stessa natura, ma essi non sono che uno, l'Eterno Onnipotente. Fuggi mortale, la tua vita è assai incerta». 28. Doane prosegue citando il seguente brano di Bonwick. Alcuni studiosi ammettono che il più sorprendente sviluppo della religione dell'antico Egitto concerne la teoria del Logos dal quale sono state create tutte le cose, parola divina che procede da Dio, ed è Dio. 29. Questa dottrina antico-egizia del Verbo è associata all'idea della processione dello Spirito, rappresentato in forma di uccello. Fra i greci simile trinitarismo con processione delle persone è assimilato da alcuni dei filosofi, in specie Ammonio Sacca ed il suo discepolo Plotino. I greci, non appena ebbero udito alcune voci relative alla missione del Messia, grado A, iniziarono a teorizzare speculativamente, paganizzando e contaminando la purezza del monoteismo. Va poi ribadito che gran parte dell'Europa del primo secolo d.C. non ha affatto ricevuto la trasmissione dalla comunità gerosolimitana originaria presieduta da Giacomo fratello del Signore, cioè della compagnia di coloro che erano stati testimoni oculari della predicazione dell'Evangelo, ma soltanto il riflesso del visionarismo paolino. È pertanto legittimo affermare che la trasmissione di quella cui verrà dato il nome di dottrina cattolica ed apostolica altro non sarà che la sintesi già espressa in termini presi in prestito dalla cultura greca del paganismo di coloro che, inconsapevoli dell'unicità nell'adorazione, pongono accanto a Dio altri oggetti di culto. Quanto al grado di contaminazione pagana e dallo scadere della trasmissione del messaggio sotto i residui del politeismo greco, è istruttivo il seguente materiale tratto da fonte canonica Atti degli Apostoli 14:8-15. Ora a Listra vi era un uomo che sedeva avendo la gamba paralizzata. Era infermo dalla nascita e mai aveva camminato. Stava ascoltando il discorso di Paolo, quando ecco che Paolo lo fissò intensamente e, vedendo che possedeva la fede per cui poteva essere sanato, gli disse ad alta voce: «Stendi il piede». Egli si alzò e camminò. E quando la folla vide ciò che aveva fatto, alzò la voce e disse dialetto licaonico: «Gli dèi sono discesi a noi in forma di uomini. Chiamarono Barnaba. Zeus e Paolo, in quanto primo degli oratori, lo chiamarono Ermesempio. Il sacerdote del tempio Zeus, che si trovava fuori città, portò buoi e ghirlande di fiori alle porte, in quanto voleva sacrificare assieme al popolo. Ma quando gli apostoli Barnaba e Paolo udirono la cosa, si stracciarono gli abiti e si volsero alla folla dicendo: «Zero uomini, per chi fate questo? Siamo uomini di natura uguale alla vostra. E vi portiamo la buona novella di volgervi da queste vane cose all'Iddio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e ciò che è in essi». Va poi rammentato che questo testo è relativo alla fase in cui la comunità apostolica di Gerusalemme, con alla testa Pietro, Giacomo e Giovanni, aveva acconsentito ad inviare Paolo come predicatore ai gentili soltanto in compagnia di Barnaba e sotto la sua guida. Quanto invece alla fase successiva in cui Barnaba si separa da Paolo non essendo disposto a consentire alle sue innovazioni eretiche, di essa è testimonianza il manoscritto dell'Evangelo di Barnaba. Doen cita inoltre l'affermazione di Higgins, contenuto nell'opera Anacalipsis. Mitra era chiamato dai persiani Salvatore, Mediatore e Logos. 30. L'opera di Doan ha dimostrato come tratto comune del culto politeista sia la fede triadica, cioè l'adorazione del supposto Dio tripersonale. Egli fornisce esempi delle triade divine proprie ai Greci, ai Romani, ai Fenici, agli Scandinavi, ai Caldei, agli Assiri ed ai Fenici. Circa la questione dell'espiazione scrive: «L'idea dell'espiazione mediante il sacrificio ad un dio è reperibile fra gli indù, sin dall'epoca vedica». 32. Krishna, il figlio della Vergine, colui che altri non è che il divino Vishnu stesso. 33. È senza principio, mezzo o fine. Essendo mosso a compassione dal fardello della terra, decise di incarnarsi e di redimerla mediante la sofferenza. 34. Nelle raffigurazioni dell'iconografia indiana selezionate da Moore nella raccolta iconografica Hindu Pantheon, appaiono rappresentazioni del dio Krishna nella forma di Vitoba, con fori nelle mani e nei piedi, CFR. Fig. 5-6 della tavola seconda. All'altezza del petto appare il simbolo del cuore, quello stesso che è raffigurato in alcune immagini di Gesù Cristo. Invece di portare la corona di spine proprio al capo del Salvatore cristiano, Krishna porta la corona turrita che appare nella Diana d'Efeso. 35. A riguardo Doane afferma: «L'idea di redenzione operata da una divina incarnazione avvenuta in questo mondo, in vista della redenzione dell'umanità e presso gli indù generale e popolare». 36. Scrive Monier Williams: «Sembra che ogni classe degli indù provi il senso del peccato originale, come è testimoniato dalla seguente invocazione recitata da alcuni Vishnuiti, Vaisnava. Dopo il Gayatri mantra: «Sono peccatore, ho commesso peccati, la mia natura è peccaminosa. Salvami, o Hari dagli occhi di loto, o redentore dei peccati». 37. Il reversetto George W. Cox sottolinea l'esistenza di due concezioni opposte del carattere di Krishna, da un lato come eroe disinteressato e disposto al sacrificio, dall'altra come colmo di divina sapienza e di amore, pronto a offrire un sacrificio che egli soltanto può compiere. 38. Questa teoria dei due Krishna è rigettata come apertamente atea e demoniaca da A.C. Bhaktivedanta Swamoe, fondatore di una setta idolatrica contemporanea. Il padre Andrea della Cruz, uno dei primi missionari europei a recarsi in Nepal ed in Tibet, nel parlare del culto del dio Indra afferma che «egli ha versato il sangue per amore dell'umanità ed il suo corpo è stato fatto a pezzi con le unghie. Essi non affermano la sua crocifissione, pure di essa troviamo nei loro libri numerose figure». 39. Del pari numerose sono le concordanze fra ciò che viene narrato di Buddha e le dottrine relative a Gesù proprie ai cristiani. I buddhisti ritengono il Buddha Salvatore di tutti gli esseri, essere compassionevole che si è sacrificato per il beneficio di tutti gli esseri senzienti, colui che con la sua missione ha reso loro possibile l'accesso alla liberazione. 40. Il tema è stato esposto da orientalisti quali Muller 41, Bell 42 ed altri. 43. Vediamo pertanto come la fede in un Dio incarnato che espia i peccati dell'umanità sia tratto comune ai culti pagani e dalla dottrina della cristianità. L'operato dei cosiddetti padri della Chiesa si identifica col rimodellare i fondamenti del cristianesimo in forma greco-pagana. Essi sono giunti alla conclusione che il cedere alla contaminazione dell'idolatria avrebbe facilitato le conversioni e l'operato dei missionari. Ne è sorto un composto amalgama caratterizzato dall'ingannevole finzione dei dogmi misterici. E questa è la ragione per cui l'illogicità e l'irrazionalità è per loro annoverata fra i fondamenti della fede. Già del resto Paolo di Tarso, al pari dei suoi epigoni, disprezzava i filosofi e la filosofia ed affermava che Dio preferisce la follia degli stolti al sano intendimento della dottrina. I missionari cristiani si trovavano infatti a dover discutere con studiosi di filosofia, avvezzi all'argomentazione logica. Essi rigettarono dunque la dimostrazione intellettuale, affermando che non vi è da dimostrare alcunché, ma soltanto da credere, anche nel caso in cui ciò risulti palesemente in contrasto con il lume dell'intelletto. Per sormontare questa difficoltà iniziarono a trattare di rivelazione, apocalissi e visioni, pretendendo di essere resi ebri dallo Spirito Santo. Nel far ciò essi seguirono le tracce degli esoteristi ignoranti, che stimano inutile il concorso dell'intelletto nella realizzazione spirituale. Fu allora che i primi missionari iniziarono la propagazione del cristianesimo secondo quanto riportato dagli Atti degli Apostoli. Se per lo più le masse li accolsero positivamente, ciò derivava dal loro stato di malcontento e di insoddisfazione di fronte ad un potere politico che, se da un lato si faceva scudo della religione ufficiale imperiale pagana, dall'altro diveniva di giorno in giorno più oppressivo. Le condizioni sociali dell'epoca erano infatti caratterizzate da un divario di condizioni di esistenza che raggiungeva vette sorprendenti. La vita stravagante e viziosa dei ricchi era edificata sul sudore e sul sangue dei poveri e degli schiavi. Nell'ambito di questo tessuto sociale, i cristiani chiamavano gli uomini all'amore, all'eguaglianza ed alla carità del prossimo. Essi del resto attribuivano scarsa considerazione a questo mondo e alle sue pene effimere, mentre si concentravano sulla purezza della vita beatifica che supponevano li attendesse nell'aldilà. Questo disinteresse per il mondo, assieme ad un atteggiamento di ossequiosa noncuranza nei confronti dell'autorità, indusse gli imperatori dell'epoca a chiudere un occhio sulla predicazione dei missionari. In tal modo la crescente sottomissione alle autorità di parte dei cristiani corrispose col tempo all'emergere in una condizione privilegiata dei vescovi ortodossi. Il numero dei prelati cresceva, come pure il loro potere. Dentro e fuori l'impero romano vaste masse abbracciarono il cristianesimo. Esso finì per diffondersi persino in Africa ed in India. Inevitabilmente l'apertura di una chiesa corrispondeva all'abbattimento di un preesistente tempio pagano. Vistisi ormai solidali con la classe al potere, i prelati più in vista mutarono attitudine sulle questioni attinenti al culto. Parte della Chiesa si mantenne invece ancora fedele ad un atteggiamento di non contaminazione con l'idolatria, subendo in tal modo la persecuzione ed il martirio cui scamparono le gerarchie più allineate. Ciò seguitò sino a quando l'imperatore Costantino concesse libertà di culto ai cristiani ed iniziò a considerare i vescovi di Roma come suoi influenti cortigiani. Tale processo si verificò attorno alla prima metà del IV secolo dell'era cristiana. Da allora in poi la Chiesa di Roma divenne il centro del cristianesimo occidentale. Missionari ufficiali furono edificate innumerevoli chiese, monasteri e seminari. Vi è inoltre un importante punto su cui il lettore è invitato a riflettere. Le discussioni che iniziarono a sorgere fra le sette cristiane erano il riflesso, nell'argomento, nella tematica e nella terminologia, delle diatribe filosofiche a cui solevano dedicarsi i greci. Fu allora che ci si iniziò ad interrogare circa le persone, le nature, l'espiazione, la natura di Gesù e simili. Fu così che in Oriente i padri greci accolsero i principi di una teologia sistematica che si discostava dalle antiche speculazioni per via della sua inintellegibilità e debolezza teorica. Gli studiosi cristiani affermano che i dogmi non possono essere compresi razionalmente. Pure affermano che essi costituiscono il fondamento della religione e che pertanto debbono essere accettati quando anche risultino contrari alla logica e al buon senso. E, in tal modo che per secoli i cristiani sono stati indotti a credere nelle Trinità, nell'espiazione, nella crocifissione e simili. Va quindi affermato che un edificio teologico costruito su basi vacillanti non può reggere alla prova. Come può infatti la religione indurre ad accogliere principi intellettualmente impossibili? E, al contrario, in base alla comprensione intellettuale che l'uomo assimila alla religione e discerne la sua validità. Come può la retta dottrina avere contenuti che risultano indisi all'intelletto? Non si tratta, forse in questo caso, di una contraddizione in termini? E questa è la ragione per cui i cristiani, dopo aver disprezzato la filosofia, allorquando tornarono a dedicarsi all'argomentazione razionale a sostegno del dogma, caddero in conflitti e discordie, e ciò sin dalla cristianizzazione del pensiero alessandrino. Laddove simili divergenze divenivano incontenibili, gli imperatori avevano cura di convocare concili di vescovi incaricati di accertare la retta dottrina. Baramentato che Costantino presiedeva simili concili, cui invitava i vescovi a suo piacimento, ancor prima del suo battesimo. Gli oppositori venivano condannati, accusati e, in caso non ritrattassero, condannati a morte. Il primo di tali concili ecumenici fu quello svoltosi a Nicea. In esso prevalse il partito degli atanasiani e fu confutata la dottrina di Ario, il quale riteneva che il figlio non era della stessa sostanza del padre, ritenendo che soltanto Dio fosse eterno e considerando Gesù un essere creato. I vescovi riuniti in concilio, in numero di 313, finirono per redigere un testo denominato Credo degli Apostoli, in cui la lieta novella nel Corano. E quando gli angeli dissero, Zero Maria, in verità Allah ti ha eletta e purificata e ti ha eletta fra le donne dei mondi. Zero Maria, obbedisce al tuo Signore, prosternati ed inchinati con coloro che si inchinano. Questo è uno degli eventi celati che ti vengono ispirati, mentre tu non eri presso di loro allorquando gettavano le penne per stabilire chi di loro dovesse prendere Maria in affidamento, né eri fra loro quando disputavano a vicenda. Quando gli angeli dissero, Zero Maria, in verità, Allah ti annuncia la lieta novella di una parola proveniente da Lui, il cui nome è il Messia Gesù figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell'aldilà uno degli approssimati. Egli parlerà agli uomini dalla culla ed in età matura e sarà fra i probi. Disse Maria, Signore, come avrò un figlio se non mi ha costato uomo? Disse, in tal modo Allah crea ciò che vuole. Quando egli decrece il suo ordine in verità gli dice sì, ed esso è, e da là gli insegnerà il libro e la sapienza, la Torah e l'Evangelo, e lo costituirà inviato ai figli di Israele col messaggio. Sono giunto a voi con un segno da parte del vostro Signore. In verità, creerò per voi dall'argilla la similitudine di un uccello, quindi aliterò su di esso, e diverrà, col permesso di Allah, un uccello vivente. Guarirò il cieco ed il lebbroso e riporterò in vita il morto col permesso di Allah. Vi informerò riguardo al vostro cibo e da ciò che custodite nelle vostre case. Invero in ciò vi è un segno per voi, se siete credenti. E, questa, una conferma di ciò che mi ha preceduto nella Torah per rendervi lecito ciò che in precedenza vi era proibito. Sono giunto a voi con un segno del vostro Signore. Temete Allah ed obbeditemi. In verità Allah è il mio Signore ed il vostro Signore. Adoratelo. Questo è il retto sentiero. Ma quando Gesù percepì la loro miscredenza disse, «Chi sono i miei aiutanti verso Allah?» Risposero gli apostoli, «Noi siamo gli aiutanti di Allah, crediamo in Allah e testimoniamo che in verità siamo musulmani. Zero Signore, crediamo in ciò che hai rivelato e seguiamo il messaggero. Iscrivici fra i testimoni. Ed essi, gli empi, macchinarono ed Allah macchinò, ed egli è il migliore di coloro che macchinano. E quando Allah disse, Zero Gesù figlio di Maria, in uero ti eleverò, ti farò ascendere a me e ti purificherò da coloro che non credono sino al giorno della resurrezione. Allora tornerete a me e giudicherò fra voi riguardo alle vostre dispute, e nel giorno della resurrezione porremo quelli che ti hanno seguito al di sopra dei miscredenti. Quindi a me ritornerete e giudicherò fra voi riguardo a ciò in cui divergete. Quanto a coloro che sono miscredenti, li puniremo di un castigo severo in questo mondo e nell'aldilà, e non troveranno soccorritori. Quanto a coloro che credono ed operano rettamente, egli colmerà la loro ricompensa, ed Allah non ama gli oppressori. Questo è quanto ti recitiamo dei segni ed il rammentatore sapiente. In verità, il simbolo di Gesù presso Allah è come il simbolo di Adamo. Lo creò dalla polvere. Quindi gli disse, sì, ed egli fu. Questa è la verità che proviene dal tuo Signore. Non essere dunque fra i dubbiosi. Corano 3, 42-60. Esegesi del testo. Il verso inizia con la congiunzione che rappresenta il legame rispetto al verso che precede. E quando la donna di grado Imran disse, entrambi i versi fanno dunque riferimento all'elezione dei discendenti di Fimran menzionati nel verso 34. Invero, Allah ha eletto Adamo. Il verso dimostra inoltre che Maria era nel povero di coloro che ricevono la trasmissione del messaggio. Ciò è provato dalle parole di Allah nella sura di Maria. Allora le inoiammo il nostro spirito che le apparve come un uomo ben formato. Disse, non sono che un messaggero del tuo Signore. In precedenza abbiamo commentato i versi. Così il suo Signore la accettò di buona accettazione e la fece crescere di prospera crescita. 3 e 37. Queste parole rappresentano infatti l'accoglimento del voto della madre di Maria. Le ho posto nome di Maria ed ho affidato lei e la sua progenie alla tua protezione contro Satana, il reietto. 3 e 36. In tale sede è stata fatta menzione delle parole degli angeli nel verso che ci accingiamo a commentare. Zero Maria, in verità Allah ti ha eletta. Esse sono le espressioni del rango di Maria presso Allah. A riguardo si consulti quanto esposto nel commento dei versi che immediatamente precedono. La sua elezione si identifica con l'accettazione della sua consacrazione al servaggio di Allah. Ella era dunque eletta ed immune da trasgressione. Taluni hanno sostenuto che la menzione della sua purificazione implicasse la impossibilità di perdere lo stato di purità rituale. In altre parole, essi ritenevano Maria vergine immune da mestruo. Fu questa circostanza, secondo il loro punto di vista, a consentirle di non dover uscire dalla sinagoga in alcun tempo. Questa spiegazione non è in quanto tale da rigettarsi, sebbene quella da noi fornita appaia più attinente al contesto. E ti ha eletto fra le donne dei mondi. Tale elezione si configura come un'eccellenza ed una precedenza esclusiva sugli esseri. E in tal senso che a Maria è concessa precedenza rispetto a tutte le donne della creazione. Sorge l'interrogativo. Tale precedenza è di natura particolare o generale? Concerne dati aspetti o la totalità? E limitata ad ambiti precisi? Si confrontino i seguenti versi. E quando gli angeli dissero, Zero Maria, in verità Allah ti annuncia la lieta novella di una parola proveniente da lui, il cui nome è il Messia, 4 meno un quarto. Ed ella custodì la sua castità, cosicché alitammo in lei del nostro spirito. E facemmo di lei e di suo figlio un segno per i mondi. 21, 91. E Maria figlia di grado Imran, che custodì la sua castità, cosicché le inviammo il nostro spirito. Ed ella colse la verità delle parole del suo Signore, e fu nel novero delle obbedienti. 66, 12. I versi in questione descrivono la singolarità dell'elezione che la esalta al di sopra di tutte le donne del creato. Trattasi della concezione miracolosa di Gesù, grado A. Il contesto comune ai versi dimostra dunque come fu questa singola grazia a conferirle precedenza su tutte le altre donne. Quanto invece alle altre qualità, attribuitele nel verso purificazione, accettazione delle parole di Allah e dei suoi libri, obbedienza al suo Signore e ricettività al messaggio, non costituiscono sue esclusive virtù, in questo sono condivise da altri. 0 Maria, obbedisci al tuo Signore prosternati ed inchinati con coloro che si inchinano. Obbedire ha il senso di sottomettersi con umiltà all'ordine ricevuto. La prosternazione rappresenta l'atto dell'adorazione, mentre l'inchino è il segno dell'accettazione. Quando Tizio chiama Caio, questi volge lo sguardo a Tizio che gli replica. Nel verso Maria è nuovamente chiamata per nome, è come se gli angeli volessero comunicarle. Ti abbiamo portato buone novelle che si susseguono l'una all'altra. Ascoltale completamente. La prima novella concerne il rango e la stazione che rivesti presso Allah. La seconda ciò che sei tenuta a fare come segno del favore divino, cioè in che modo devi rendere ad Allah il segno della tua sottomissione creaturale e servile. Ciò sarà segno della tua gratitudine per il rango che hai avuto e pegno della tua obbedienza. Secondo tale interpretazione il verso 0 Maria, obbedisci, sembra derivare dal precedente 0 Maria, in verità Allah ti ha eletta. Ne deriva il senso. Dal momento che Allah ti ha eletta, ti ha purificata e ti ha eletta al di sopra di tutte le donne del creato, sei tenuta ad obbedirgli, a prosternarti e ad inchinarti con coloro che si inchinano. E, inoltre, è possibile che ciascuno dei tre ordini contenuti nel verso obbedisci, prosternati ed inchinati con coloro che si inchinano promani dalle tre grazie menzionate nel precedente. Ti ha eletta, ti ha purificata e ti ha eletta sulle donne dei mondi. Questo è uno degli eventi celati che ti ispiriamo. Allah ha parlato in tal caso, come pure riguardo alla storia di Giuseppe, grado A, di evento celato. CFR. Questo è uno degli eventi celati che ti riveliamo, e tu non eri fra loro quando decidevano circa il loro affare e macchinavano piani. 12.102. Va poi detto che le scritture della gente del libro contengono narrazioni relative alla vita di Giuseppe, di Gesù, grado A, e degli altri profeti, ma ad esse non può essere attribuito credito in quanto il loro testo non è stato trasmesso immune da alterazioni, sottrazioni e contraffazioni. A titolo di esempio, si guardi al fatto che molti dei particolari concernenti la storia del profeta Zaccaria, grado A, non sono in alcun modo riportati nella Bibbia. E probabilmente questa è la ragione per cui Allah ha detto: mentre tu non eri presso di loro allorquando gettavano le penne per stabilire chi di loro dovesse prendere Maria in affidamento. Il termine che abbiamo reso con penne si riferisce altresì alle frecce o asticelle utilizzate come mezzo di sorteggio. Gettare le penne va quindi presso per sinonimo di estrarre a sorte. Quando essi gettavano le penne, significa nel momento in cui estraevano a sorte, mediante bastoncini di differente lunghezza, chi dovesse divenire il tutore di Maria. Ciò dimostra come la disputa di cui alla frase successiva ne eri fra loro quando disputavano a vicenda si riferisce al medesimo oggetto, cioè al fatto che, non avendo raggiunto un accordo circa l'affidamento di Maria, i religiosi giudei decisero di ricorrere all'estrazione a sorte. L'estrazione risultò favorevole a Zaccaria, il quale assunse la funzione di tutore di Maria, come ha detto Allah, e l'affidammo alla tutela di Zaccaria. 3:37. Secondo alcuni esegeti, il contendere e la decisione di ricorrere all'estrazione si verificarono invece quando Maria era già cresciuta e Zaccaria era troppo infermo ed avanti con gli anni per potersene prendere cura. Com'è sorta tale congettura? Probabilmente per via del fatto che l'uso delle due espressioni temporali e quando può indurre qualcuno a supporre che l'affidamento di Maria e la disputa concernente altro argomento siano sorti in due periodi distinti. Non è tuttavia inconsueto, secondo lo stile coranico, descrivendo un evento, ripetere o alludere a qualcosa di cui si è fatto menzione immediatamente prima, al fine di fornire prova e convalida. Tale è ad esempio il tratto stilistico della conclusione della Sura di Giuseppe, laddove Allah dice: «Questo è uno degli eventi celati che ti riveliamo, e tu non eri fra loro quando decidevano circa il loro affare e macchinavano piani». 12.102. Le macchinazioni cui il verso si riferisce sono quelle stesse che sono state menzionate all'inizio della storia, e quando dissero: «Certamente Giuseppe e suo fratello sono più cari di noi a nostro padre. Uccidiamo Giuseppe o abbandoniamolo sulla terra». Uno di loro che prese la parola disse: «Non uccidete Giuseppe e, se dovete proprio farlo, gettatelo nella bocca del pozzo così che qualche viaggiatore possa raccoglierlo». 12.8.10. E quando gli angeli dissero: «Zero Maria, in verità Allah ti annuncia la lieta novella di una parola». Evidentemente si tratta dello stesso evento cui è fatto riferimento nella Sura di Maria con le parole: «Allora inuiamo il nostro spirito e le apparve come uomo ben fatto». Ella gli disse: «In vero cerco rifugio contro di te presso il misericordioso, se sei fra i timorati». Rispose: «Non sono che un messaggero del tuo Signore, incaricati di concederti un figlio puro». 19.17.19. Nel verso oggetto della nostra esegesi, la trasmissione della buona novella è attribuita agli angeli, mentre nel verso citato essa è riferita allo Spirito. Si è detto che in questo verso la parola angeli designa Gabriele e che egli è chiamato al plurale in senso di onore e di rispetto. Si dice infatti: «Ha viaggiato, cavalcato cavalli e preso navi», anche nel caso di colui che di fatto ha preso un solo cavallo o una sola nave. Diciamo inoltre: «La gente gli ha detto così», anche nel caso in cui la cosa sia stata riferita da una sola persona. Uno stile analogo è riscontrabile nella storia di Zaccaria, ove è detto: «Allora gli angeli lo chiamarono. Egli disse: "Così Allah fa ciò che vuole". 3.39.40. Altri hanno invece affermato che vi erano altri angeli in compagnia di Gabriele e che essi hanno trasmesso il messaggio in sua compagnia. Se comunque si ponga mente ai versi che parlano degli angeli, si comprenderà come la loro gerarchia sia variegata. Alcuni hanno un rango più elevato di altri. Ve ne sono di quelli che posseggono un maggiore grado di prossimità ad Allah. Coloro che occupano il rango subalterno non fanno che eseguire gli ordini di quanti li precedono nella gerarchia. In questo modo gli atti compiuti dai seguaci vengono attribuiti a colui che ha impartito l'ordine. Trattasi di caso analogo a quello degli atti compiuti dalle nostre facoltà o dai nostri organi, che vengono considerati i nostri atti senza che vi sia dualità di agente. Diciamo infatti: «L'ho fatto con le mie mani». Lo stesso principio si applica al caso in cui si dica: «L'ho visto con i miei occhi e l'ho udito con le mie orecchie». Diciamo poi: «È stata la mia mano a farlo», oppure: «La mia stessa mano lo ha scritto». In ciò non si dà alcuna disparità di agente, poiché intuitivamente cogliamo simili espressioni come equivalenti a «l'ho scritto io» o «l'ho fatto io». In modo analogo, gli atti degli angeli di grado più elevato sono espressi come atti di quelli di rango meno elevato, cioè di coloro che trasmettono l'ordine, e viceversa. Oltre a ciò, gli atti di tutta la milizia angelica, dai più elevati ai subordinati, sono attribuiti ad Allah stesso. Si guardi ad esempio all'atto del far morire. In un verso Allah lo attribuisce a se stesso: «Allah elewa a se l'anima al momento della morte». 39.42. Un altro verso attribuisce il medesimo atto all'angelo della morte: «L'angelo della morte, colui che è il vostro custode, vi farà morire». 32.11. In ulteriore verso lo stesso atto è poi attribuito a più angeli: «Sino a quando giunga la morte, ed i nostri messaggeri lo facciano morire». 6.61. simile varietà nella determinazione d'agente è nei seguenti versi. In vero te lo abbiamo rivelato. 463. Lo spirito fedele lo ha rivelato al tuo cuore. 26.193.194 D. Chiunque sia nemico di Gabriele, poiché è lui ad averlo rivelato al tuo cuore. 2.97. No, in verità esso è ammonimento. Che colui che lo gradisce lo rammenti. Su pagine onorate, eccelse purificate, per mano di scribi generosi e probi. 80.11.16. È pertanto evidente che la trasmissione della lieta novella ad opera di Gabriele si identifica con la trasmissione operata dagli angeli sottoposti alla di lui autorità. Gabriele è infatti fra gli angeli più eminenti uno degli approssimati ad Allah. Cherubini, come Sheil mostrato dalla parola divina, in verità esso è la parola di un messaggero onorato, dotato di forza, onorato presso il Signore del Trono, obbedito e fedele al compito. 81.19.21. Se Allah vuole, torneremo in seguito sull'argomento, allorquando tratteremo della 35esima sura. Quanto alla tematica in questione, ulteriore esempio è fornito dal verso, ecco, Allah crea ciò che vuole. 3.46. Le seguenti parole vengono riferite come pronunciate da Allah Imam Knun al-Waniya, mentre nella 19esima sura le medesime parole sono attribuite allo spirito. Egli disse, non sono che un messaggero del tuo Signore incaricato di darti un figlio puro. Disse, come avrò un figlio se mai alcun mortale mi ha accostato, né sono stata dissoluta? Disse, ecco, il tuo Signore ha detto, ciò è facile per me. 19.19.21. Il fatto che gli angeli e lo spirito rivolgano la parola a Maria dimostra come ella sia una di coloro che ricevono la trasmissione del messaggio da fonte angelica. A ciò si aggiunge la testimonianza fornita dalla 19esima sura, secondo la quale oltre a sentire l'angelo, ella lo vide. Le inviammo il nostro spirito che le apparve come uomo ben formato. Ciò verrà ulteriormente chiarito, se Allah vuole, in sede di tradizioni. Una parola da lui promanante il cui nome è Messia figlio di Maria. Quanto al senso dell'espressione una parola di Allah, ce ne siamo occupati nel commentare il verso. Quanto agli inviati, abbiamo fatto eccellere alcuni di loro al di sopra di altri. Ne risulterà pertanto chiara la distinzione fra la nozione coranica di parola di Allah e la dottrina egizio-greco-cristiana del verbo di Dio. In arabo il termine che abbiamo reso con parola è un nome collettivo, il cui singolare è kalim, come nel caso di at-tamra, datteri, e at-tamr, dattero. Al-kalima è pertanto usato, nel senso di parola, tanto per esprimere un singolo nome, quando un'intera frase, come ad esempio tizio è in piedi, può del pari essere chiamata parola anche una frase incompleta. Come ad esempio, se Tizio stesse in piedi, queste spiegazioni sono conformi alla grammatica della lingua araba. Per quel che invece concerne la terminologia coranica, l'espressione una parola di Allah ha il senso di espressione della volontà divina. Può pertanto trattarsi di una parola che sia un ordine, come ad esempio il fiat creativo, kun, oppure di una parola trasmessa per rivelazione, ispirazione e simili. Qual è dunque il senso dell'espressione? Una parola di Allah si è riferita a Gesù, grado A, i profeti che lo avevano preceduto, in specie quelli inviati fra i figli di Israele, avevano predetto il suo avvento, annunciando che sarebbe stato il Salvatore di Israele. In una situazione analoga, vedendo l'adempimento di quanto avevamo annunciato, possiamo dire, si è dunque avverata la parola che avevo detto. Questo ricorso al senso del termine parola è utilizzato da Allah riguardo a Mosè, grado A, e la buona parola del tuo Signore fu adempiuta nei figli di Israele in quanto sopportarono con pazienza. 7.17. Sia lode ad Allah, Signore dei mondi, termina qui l'elucidazione del rango di Gesù e di Maria, la pace sia con loro, secondo l'esposizione del commentario La Bilancia, nell'esegesi del Corano dello Sheikh Allama Sayyid Muhammad Hussein, Tabataba, che Allah perdoni a lui ed a noi, che Allah benedica il profeta Muhammad, la sua pura famiglia, le sue virtuose mogli, i suoi probi compagni e coloro che lo seguono per il meglio sino al giorno della resurrezione. Amin. Biografia dell'autore. Il defunto sapiente pensatore e filosofo islamica al grado Allama As-Sayyid Muhammad Hussein At-Tabataba, At-Tabriz Kakono di Tataba Idel Mendi Tabriz, nell'Azerbaigian iraniano. Nel corso degli ultimi 3 secoli, questa famiglia ha fornito numerosi sapienti competenti nelle differenti scienze islamiche. Essa discende da Sayyidna al-Hasan ibn Grado Ali. Grado Allama Tabataba era figlio di As-Sayyid ibn As-Sayyid Muhammad Hussein At-Tabatabai. Nacque a Tabriz il marzo 1904 e perse il padre all'età di 8 anni. L'orfano crebbe affidato alle cure della famiglia nella natia Tabriz. Dopo aver completato l'istruzione religiosa primaria, all'età di 19 anni li trasferì a Najaf al-Ashraf, Iraq, presso la celebre università teologica che sorge attorno al mausoleo dell'emiro dei credenti Imam Grado Ali. A Najaf egli iniziò gli studi superiori presso illustri docenti quali Sheikh Muhammad Husayn al-Isfahani, 1878-1842. Essi erano fra i giuristi più importanti della loro epoca e possedevano numerosi discepoli. Molti dei sapienti iraniani ed iracheni contemporanei hanno seguito i loro corsi. Al-Isfahani era un celebre filosofo, scrittore ed autore di poesie in arabo ed in persiano. An-Naini era un rinomato giurista i cui decreti influenzarono l'assetto politico-sociale della comunità islamica. Nello sviluppo del suo pensiero e della sua conoscenza Grado Allama Tabataba, i fu molto influenzato da entrambi i docenti, in specie da Al-Isfahani. Ulteriore contributo alla sua formazione fu quello di As-Sayyid Abu, uno Qasim già Grado Faral Qansari, 1895-1941, celebre matematico. Grado Allama Tabataba gli apprese da lui i principi della matematica e scrisse un libro sul valore simbolico di questa scienza. Egli studiò inoltre metafisica e filosofia con As-Sayyid Husayn al-Husayni al-Badkubi, celebre filosofo. Per quanto attiene alla gnosi ed all'etica, egli ricevette la trasmissione dell'insegnamento dal suo parente As-Sayyid Grado Ali Aga At-Tabataba, i 1869-1947. Tutti costoro contribuirono a fare di Grado Allama Tabataba un'autorità religiosa e giuridica del più alto livello, un filosofo revivificatore del metodo classico del realismo ed autore di una estesa confutazione del materialismo storico, uno gnostico dall'anima purificata ed un modello di perfezione etica. Sebbene in forma indiretta, la sua opera ha recato un grande beneficio all'Occidente, in quanto è ai ripetuti colloqui con lui che si deve la vasta mole di conoscenze trasmesse in Europa, dall'orientalista francese Henri Corbin. Alle lezioni di Tabataba i prese inoltre parte Sayyid Husayn Nasr, studioso iraniano autore di numerose opere di argomento islamico in lingua inglese e francese. A causa della Seconda Guerra Mondiale, nel 1934 Allama Tabataba fu costretto a fare ritorno a Tabriz. Ivi dedicò parte del suo tempo all'insegnamento della filosofia, ma i limiti dell'ambiente locale risultarono inadeguati al suo talento. Al termine della guerra si trasferì a Qum, il più importante centro religioso dell'Iran, ove insegnò etica, filosofia, giurisprudenza, principi di giurisprudenza ed esegesi coranica. Molti dei suoi studenti sono oggi autorità religiose di primo piano. Fra essi va fatta menzione del defunto Murtada Mutahari, 1920-1979, uno dei più eminenti teorici della rivoluzione islamica in Iran. Grado Allama Tabataba seguitò ad insegnare a Qum sino alla morte, sopraggiunta il 15 novembre 1981. Che Allah abbia misericordia di lui. Ritorno al indice. Bibliografia dell'autore. Al-Mizan fi Tafsiri, il Quran, la bilancia nell'esegesi del Corano. Trattasi dell'opera fondamentale di grado Allamtabataba, in Necessomige, un commentario del Corano in 20 tomi in lingua araba, la cui traduzione in persiano comprendente 40 volumi, e altresì in corso di pubblicazione la traduzione inglese a cura del WBIB, OFIS, della quale sino ad ora sono stati stampati 7 volumi. Da essa è estratto il presente. Usuri falsafa warrui shiri, I100 grave L, I100 grave SM, principi di filosofia e metodo del realismo, opera in 5 volumi con glosse dello Shahid Murtada Mutari, contiene una serrata critica dell'ideologia marxista ed illustra i possibili orizzonti di un superamento della concezione materialistica della storia. I primi 3 volumi sono alla seconda ristampa, mentre è stata pubblicata la traduzione araba del primo, Hashia Bar Asfar, Glosso ad al-Asfar. Trattasi dell'edizione commentata dell'opera Al-Asfar di Sadruddin Ash-Shirazi, Mulla Sadra, della quale sono sinora stati pubblicati 7 volumi. Musahabat Baustad Kurban, Dialoghi col professor Corbin. 2 volumi. Contenenti il resoconto dei dialoghi fra grado Allamtabataba, Ypres, e l'orientalista Henry Corbin, dell'Università di Parigi. Risala Dar Hukmat Islami, trattato sul governo islamico, pubblicato in arabo ed in persiano. Ashiai Kifaya, glossa all'opera Al-Kifaya. Risala Dar Kuwafi grado L, trattato su potenza ed atto. Risala Dar Ifbai Dat, trattato sulla dimostrazione dell'essenza divina. Risalah Dar Sifat, trattato sugli attributi divini. Risalah Dar Afal, trattato sugli atti divini. Risalah Dar Wasait, trattato sui mezzi. Risalah Dar Insan Qabla Dunya, trattato sull'uomo nella condizione premondana. Risalah Dar Insan Bagrado da Dunya, trattato sull'uomo nella sua condizione oltremondana. Risala Dar Walayat, trattato sull'illegittimità. Risala Dar Nubuwat, trattato sulla profezia. Risala Dar Mushtaqat, trattato sulle deduzioni. Risala Dar Mughalata, trattato sul sofisma. Risala Dar Tahlil, trattato sull'analisi. Risala Dar Tarjib, trattato sulla sintesi. Risala Dar Igrado Tibarat, trattato sulle contingenze. Risala Dar Nubuwat Tawamanamat, trattato sulle profezie e l'interpretazione dei sogni. Manzuma Dar Rasmi Khatti Nastagradolik, poema sul metodo di scrittura della calligrafia Nastagradolik. Grado Ali Wawa La Falsafatul Ilahia, Fali e la Metafisica. Kurien Dar Islam, il Corano nell'Islam. Muhammad Dara Ina Islam, Muhammad alla luce dell'Islam, tradotto in italiano, e pubblicato dalle edizioni Arctos Carmagnola. Colasei Azta Grado Lin Islam, l'insegnamento islamico, tradotto in italiano e pubblicato dal Centro Culturale Islamico Europeo. Grado Allamtabataba I è inoltre autore di numerosi articoli, apparsi nel corso degli ultimi 40 anni in pubblicazioni quali Maktab Islam, Magrado Arif Islami, ed in antologie quali The Mulla Sadra Commemoration Volume Tehran 1340,